Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Non posso cominciare così oggi seriamente, perché vicino a me c'è un personaggio terrificante che sta facendo una diretta streaming per affatti suoi. Io volevo cominciare seriamente, come sempre, ricordando la nascita, o qualcuno che ci ha salutato, nel giorno in cui andiamo in onda. Oggi è 26 giugno, il 26 giugno è la festa di un grandissimo compositore jazz, un compositore di colonne sonore straordinario che tu conosci, Dave Grusin? Grusin, sì. No, Dave Grusin. Arthur in the Fires. Ma che Arthur in the Fires? Dave Grusin? Ma che ne so, ma che ne so. Non è, non sono è. Di Roma, io non le so queste cose. Vabbè, ma Dave Grusin, però il paradiso può attendere. E vabbè, non c'è fretta, aspettiamo. No, il film Il Paradiso può attendere. Lo so, col sassofono, il flautino, esatto, il rugby, su, faccio il tonto ma non ci sono. Ho capito, e beh, Tuzzi? Faccio tonto e ci sono in questo caso. E Tuzzi, quello Dustin Hoffman che fa l'uomo e la donna, la fiction, non è Tuzzi una cosa grande per me, no. Ah, pensavo, Duzziner, no, tu sei. No, Tuzzi, ma che ne so io. E I Tre Giorni del Condor. E va avanti questa trasmissione, ma se sei io. Vabbè, insomma, ascoltiamo soltanto un momento, solo pianoforte, Dave Grusin. So che gli ospiti che verranno dopo questo signore sono un po' più ferrati in materia. Ci ascoltiamo soltanto un momento proprio di Tuzzi. Non si può. Metti Alessandro, ti ringrazio. Così. Non si può così, però. Stiamo sentendo la canzone, non dovresti parlare adesso, si sente, capito? La gente sente. E certo. Ma pare che ascolta. E la gente ascolta. Vabbè, ragazzi, ci sentiamo dopo. E no, adesso. No, la gente che ascolta. A chi allora? Tuzzi. No, Tuzzi. Tuzzia, sta ascoltando. No. Qui ci ascolta solo Tuzzia. Ma non è da Dave Grusin, non me lo puoi mortificare in questa maniera. Ma io scherzo, sminuisco tutto perché sono giganteschi. C'ho ecco. Tutti i CD di questi. Sì, faccio le domande, sì. Benissimo, avete capito perfettamente oggi. Va bene, lasciamolo in sottofondo il pianoforte di Dave Grusin, perché non è. Allora, va bene. L'amico qui al mio fianco, che è ospite a Radio 24, è Maurizio Battista. Ti buona mette... domenica mettete a tutti. Buffia, Maurizio, no, perché mi dà fastidio i capelli. Ma non ce l'hai. Ah, ecco, sono uscito di corsa di casa. Sono uscito di corsa. No, questa è Voice Anatomy, la trasmissione. Si parla del mondo della voce, di tutto ciò che riguarda la voce, perché gli attori, i cantanti, i doppiatori, i chirurghi. Ah, ecco, la trasmissione a questa cosa. È altissimo voci. Livello, Radio 24 è una radio ascoltata da sono persone. Sono orgoglioso di stare qua. Sì, esatto, devi essere. Non lo dico così perché sembra finto, dirlo no, diversamente. Ne sono convinto. No, non ne sei convinto. Uno è convinto dice ne sono assolutamente convinto. Non dice ne sono ne convinto. Ne sono assolutamente convinto. Credici un po' di più, dico i numeri. Oddio, madonna, io, l'errore è stato quello. Stava Riccione, doveva rimanere a Riccione. Invece, siccome è un fraterno amico, ha detto: no, vengo prima. Sarà perché dovevi scappare? No, dammi socio, dammi moglie. Ecco, ferma, quello è. I numeri di telefono per i vostri sms lo sapete perfettamente: 349-238-6666. Te lo ricordi? 3466. No, 349-238-6666. E per partecipare in diretta, se volete, con noi 800-24-0024 e soprattutto tutti i nostri social, Facebook che è molto frequentato, di Voice Anatomy. Non te posso guardare, mi giro dall'altra parte perché si può fare una trasmissione in questa maniera. Guarda, io spero che girino. Stanno già scrivendo, va bene. Allora, nasce a Roma il 29 giugno del 1900. Mercoledì è la festa mia. Sì, apposta è il 29 giugno, tu me l'hai detto. Non ti si può nascondere niente. Sta scritto su Wikipedia, anche se i nostri autori Alessia Navarro e Mauro Meconi, insomma, sono bravi. E poi Mauro è un tuo grande stimatore. Infatti, anche Alessia. Guarda però, come sta messo. Lo so, hai visto che film ha fatto. Vabbè, ma questo dimentichiamolo, poi lo intervisteremo la puntata prossima domenica, perché devi sapere che questa trasmissione, Voice Anatomy, ha vinto miglior trasmissione dell'anno, il premio Ennio Flaiano. Questa qui. Trasmissione radio. Questa qui. Che vabbè. Meno male che ce l'hanno dato prima. No, questa puntata. Io ho letto questa cosa, stavo leggendo che negli ultimi anni ha danno un po' a tutti. No, no, letto. Non è così. No, no, ma cosa. Che senti per no? La gente parla molto, qui magari dicono pure cose belle. Vabbè, non è possibile, però io non so neanche quando finiscono i blocchi. Però nasce a Roma il 29 giugno 1957, è un comico e attore italiano. Italiano. Italiano. Italiano te sta allargare. Minimo 6 regioni sbagliate. Sì, vabbè, però italiano. Tutti i tuoi sono di Roma. Tutti. Mio padre era tuo laziale. Tifoso come te, infatti. Ma si può dire Lazio per telefono? Telefono, per radio, per telefono. Si può, era di Arce, era Ciociaro, di conseguenza è giusto che era laziale. Era laziale come te. Che a Roma erano tutti laziali, perché non c'era. Sì. Erano tanti. No, perché si dice sto stereotipo da quattro. Sì, diceva che viene da fuori. Tu invece no, tu sei di Roma, per cui sei della Roma. Ma il campionato non c'è, perché dopo c'è anche il collegamento. Sei brutto come prima. Non è vero. Sempre dopo questa trasmissione c'è tutti convocati con Pardo eccetera. Ah, addirittura. Sì, che mi danno, si chiamano mai una gioia, perché quando mi collego con loro la domenica mi danno i risultati. Non c'è mai un momento. Vabbè, è calcio, si scherza. Ma dai, non c'è bisogno neanche di dirlo. Però voglio leggere: è uno dei più noti comici di cabaret, ma non solo, anche di teatro, secondo me. Come comico, molto spesso la sua satira prende di mira i comportamenti delle donne negli aspetti della quotidianità, portandoli all'eccesso. Ti piace così? No, è tutto bene, è l'eccesso che è inutile. L'eccesso è tutta una parola, però. Ah, non sanitario. Esatto, no, eccesso. È tutto, con due C, capito? Il cesso. No, eccesso. Basta dirlo. Esatto, molto famosi anche i suoi sketch in cui ironizza su bizzarri articoli di giornale o annunci tutti realmente pubblicati. Ha ottenuto tantissimi successi di critica di pubblico, TV, cinema e soprattutto teatro. Signore e signori, abbiamo il piacere di avere con noi un grande amico, un grande comico, un fratello, Maurizio Battista. Ecco, vanno benissimo un grande amico e un fratello, tutto il resto. Sulla critica, tanto stiamo parlando liberamente tra amici, qui si può e stiamo parlare. Scherzando su tutto e su no, tutto. No, si deve. Sulla si critica, deve. No, perché non sono stato, come si direbbero quelli che parlano bene, recensito più di tanto è criticato più di tanto, più che altro se ne fregano. Lo dico sì, ma non c'è più neanche la critica. Sì, una volta si aspettava il martedì. Ecco, per vedere la recensione. Mo, siccome nel caso mio, vi parlo nel mio caso personale, non vengono proprio i giornali, lo dico con sì, per ma verità viene, di però Dio. Viene la gente. Questo è chiarissimo, no. È chiaro. Non vengono, non mi recensiscono, non dicono né che è bello, né che è brutto, né che è inutile, né che è nazional popolare, non dicono niente. Tu sei utile. Sembra che Battista, ma va bene così, visti no, i numeri. No, esatto, noi abbiamo uno spettacolo il 21 giugno al Centrale del Foro Italico, tu c'hai sì, lo no. spettacolo, poi siccome non me ne perdo uno, ci starò pure io, in qualche modo, in platea, se mi lasci un posto. Ma che sta aspettando? Al Centralino del Foro Italico. Dove sì. 21 luglio, scusate. Perché 21. Hai detto, pensa quanto sto a sentire, manco me ne accorto. No, beh, però 21 giugno è passato, il 21 luglio, ma c'è Alessia pronta, mamma mia. Ma una fatica, ma si sta d'ansia sto coso, lo sai? No, mettiamoci tranquilli, perché vengono tutti e sono tutti tranquilli. Ti faccio delle domande, Battista, va bene? E io ti rispondo, Maurizio, insegno. Perché Meconi e a Navarro ci tengono molto che noi seguiamo una scaletta, mentre io e te potremmo andare avanti serenamente. E allora di a Meconi e a Navarro che hanno sbagliato, invitato la persona sbagliata. Eppure il conduttore sbagliato. No, magari il conduttore, insomma, no. Sei prestigioso per certe cose. Partiamo per certe cose. Sì, certo. Sta puntualizzato tutto. No, ho capito, parliamo un po' di teatro, quello serio, quello che tu hai visto, mio, ti è piaciuto moltissimo. Tu sei il classico esempio di attore comico che si è fatto da solo, e più di una volta, come si dice. Con tanto impegno, tanta gavetta e tanta perseveranza. Quanto hai capito di avere qualcosa di speciale? Quando è successo questo? Allora, il mio genere, lo dico a quelli che ai tanti che non lo conoscono, è un genere reale. Io racconto la vita quotidiana fatta di tante cose belle, di qualche tristezza, di qualche sofferenza. E dico, secondo me il comico deve un po' aver sofferto, deve aver passato qualche momento brutto. Non so, sembra perché che sto dicendo no, no, no, perché poi però se riesci ad affrontarlo con autoironia succede quello che fai. Va benissimo. Che lo vivi bene il momento che succede bravissimo. Cosa brutta e poi lo trasformi sul palco. Bravo. Io sono molto sensibile, piango con molta, lo dico seriamente, con molta facilità e questo mi avvicina molto alle persone, cioè sono umano. Certo. Cioè a me non è che se tu mi fermi e stai facendo una foto, io ti faccio perdere mezza giornata. Io non so, te conosco. Io so che fare giorno. Sono dice, possiamo offrire un caffè? C'è gente che se pensa ai ferie perché è così, sono così di carattere, sono esuberante e timido però pure. Però tu ridai alla gente quello che la gente ti dà quotidianamente. Sì. Tu il millesimo che incontri lo tratti come il primo, perché per lui è la prima volta che ti incontro. Perché giusto? Gli voglio bene io al pubblico, ma pure quello che ascolta adesso, magari sta a Berlino e viene, mo dico una stupidaggine. Sì. Io gli voglio bene, perché mi ha dato tante cose che mi hanno aiutato a superare anche momenti terribili. Quando è stato il momento proprio che c'è stato questo? C'è stato un momento di grande salto, Maurizio, che tu eri un comico prettamente romano e all'improvviso invece l'Italia si è accorta. Lo dico per qualche ragazzo, lo dico per qualche ragazzo, perché chi è grande come me ormai, non dico è tardi, ma io avevo dei diaframmi, cioè diaframmi di timidezza, di insicurezza ancora. Insicurezza ce l'abbiamo tutti, quelli sempre. Che fanno gli attori. Io non sono mai a mio agio in qualsiasi cosa, pure adesso. Con io me. Non so mai. Sì, sto con te, sto con un fratello, mi permette. Però non sono mai a mio agio. Sento sempre, oh, vi è piaciuto. com'è andata, sempre sotto giudicato. Però questa insicurezza ti dà forza. Bravissimo. Però io questo ho superato mano a mano questi diaframmi di sempre timidezza. E ho detto, ma perché devo, io non parlo di politica perché me ne frego, mi fa pure, non mi interessa. Dico, quando ho capito devo raccontare il vissuto mio, che poi degli altri, cioè, non è che ci sono marziano. Esatto, tu vai al bagno come tutti, come sempre. Poi, bravissimo, vivo come tutti, forse in qualche caso pure peggio di qualcun altro. Ci vai due volte al bagno. Perfetto. E poi in più c'avevo questo DNA un po' sopito, era un po' mascherato, perché poi c'avevo anche moglie, figli piccoli. Cioè, uno da ragazzo può fare quello che vuole. Quando c'hai una moglie e figli, sei un deficiente, un ritardato, andò vai a far cacchere sto cabaret. 25 anni fa che era, c'era solo il puff, no? È vero, di c'era, là, non c'era, questo c'era, dico, no, no, c'era. Adesso mille trasmissioni, mille cose, sono tutti attori, tutti comici. Qualcuno mette barzellette su Facebook e si sente un grande comico. Esatto. È tutto, va bene tutto, va bene tutto. Io quando ho capito, quando ho superato questa timidezza, e ho detto, racconto me, perché io so raccontare da ragazzino bene le cose da ridere. Certo, quello sì. Io ti racconto un aneddoto. Mio padre era come me, i fratelli di mio padre pure, ne è rimasto uno solo vivo. Come la comicità certe volte è dentro di te. Ti faccio un esempio. Vai, ci ho avuto il tempo del mondo. Allora, non sto scherzando. Io non, quando scherzo non sto mai scherzando. Va bene. Dico solo cose vere. Il fratello di mio padre, cioè due fratelli, un fratello di mio padre, zio Mario, persona di una comicità, lavorava alla CEA, tutto quanto, è morto a Pasquetta. Pasquetta il giorno dopo, il lunedì, certo. Pasqua. Mio padre morì il 23 dicembre di tanti anni fa. Giorno prima. Funerale il 24, capisci? Prima volta il funerale. E mio zio, l'altro fratello, quello vivo, quell'ultimo vivo che ancora insomma è grande, è vivo, disse questa frase. Qui capisci la comicità Simpson. Capisci il 24 pomeriggio, certo, a prima porta, che cosa può essere? Sì, sì, l'unici due maschi erano mio fratello, tutti gli altri Battista erano femmine. Mio zio ci prese e dice, ragazzi, verità di Dio, sì, tu zio Mario ci ha rovinato la Pasqua. Tuo padre è Natale, per Ferragosto mi muovo io. Tutto come? In un momento di una tristezza. Di una tristezza, una tragedia brutta, così sono messi a ridere, porca miseria. È così. Però questo ti fa vivere meglio. Questo non vuol dire che uno perde di rispetto, no, è un padre, come fai a perdere di rispetto? Mio padre avrebbe detto, a ruoli cambiati, a stessa battuta. Stessa battuta. Mio padre quando diceva, io nasco dal bar, cioè io faccio lo spettacolo senza bancone, cioè io al teatro senza bancone, non c'è il bancone, però rimane, io non faccio questo, e la gente, vedo numerosi, mi vuole bene per questo qua, perché non faccio finta di essere qualcosa. Ma si riconoscono, si specchiano tutti quanti, e soprattutto, sì, non mi hai detto, sono un attore, scusate. No, qualcuno dice pure, ti vede a me, dicevo, ringrazio Dio di come sto io, so pure, io faccio bene all'anima, ma che scherzi. Ma guarda che quel ridere fa buon sangue, si dice una volta, adesso si arriva pure al punto che l'ipotalamo cresce a seconda di quanta fase maniacale, si dice, certo, non manico-depressiva, tu provochi nelle persone, è come l'esercizio in palestra, il muscolo cresce, cresce l'ipotalamo se sei sereno, se te fai due risate. Io sto fermo all'ipotalamo di prima, esatto, non si è mosso proprio, si cresce con l'ipotalamo, certo, e vuol dire che stai meglio, provochi delle endorfine, hai delle erezioni spontanee anche quando non dovresti, senza medicinali. Sta cosa, cioè, non, tu aiuti non la gente. Risulta, no, vabbè, non ti fa bene, tu fa bene all'altri, perché tu fai ridere all'altri, fai stare bene. Hai tendenza all'altri e io niente. No, tu è sì, brutta, che ne so, cosa. Ma che sta buono che fra un mese te nasce un figlio. Capito? Una figlia. Poi dobbiamo parlare di questa cosa qui in anticipo dello spettacolo perché del 21 luglio. Io amo la vita. Sì. Voglio vivere fino a miliardo di anni, voglio vivere e tenerlo un braccio, che sarà dura, come diceva Charlie Chaplin, dice, ho fatto un figlio 80 anni, è difficile. Vabbè, tenerlo un braccio, io ce n'ho qualcuno di meno di 80. Sì, no, infatti dovresti fare, però la bellezza di essere se stessi, come sì, diceva qualcuno, è meglio essere nessuno che qualcun altro. Io voglio essere me stesso, piace o non piace, qualcuno mi dirà se becero, qualcuno dirà se non sei, non ci posso fare niente. Allora chiudi questo primo momento insieme, c'è un attimo di pubblicità e poi torniamo a Radio 24 Voice Anatomy con Maurizio Battista. Dillo tu, sei tu il conduttore. E primo blocco è finito. Vabbè, no, un po' di più. Ci sentiamo tra pochissimo. Ci vediamo tra poco. No, che vediamo? Ci sentiamo quando dura? Ma noi che già ti sei rotto le palle, dai. Fra pochissimo. Posso andare via? No, vai da Gruciani la prossima volta. Vieni da me. A tra poco, Voice Anatomy è appena cominciata. E in che modo? Voice Anatomy. Bentornati, Maurizio Battista, sei qui? Presente. Ecco, bello, così mi piace, energico, capito? Per forza, ci devo stare. Ma no, così è un film brutto di guerra. Deficiente. Ma no, sembra un film di guerra doppiato male. Ma come posso mancare? È peggio pure questo. Arrivano tantissimi messaggi che ti ringraziano. Qualcuno sempre molto attento, perché Radio 24, certo, insomma, sono persone, no, che hanno studiato. Certo. C'è gente pure che non ha studiato. Se domanderanno che c'è sta a fare Battista, esatto, lì. Molti dicono questo, ma io l'ho bypassato. Ma tra poco ci stanno. No, scherzo. No, ci sono, no, dei messaggi duri, che io li apprezzo. Ce n'è sempre uno che racconta ogni puntata. Siamo alla 42esima puntata. C'è uno che ha detto la prima puntata: che bello, finalmente Pino insegna a Radio 24 la domenica, così potrò finalmente fare pulizia di casa, perché l'aspirapolvere c'ha la stessa voce tua. Questo è stato il primo messaggio d'esordio. A me però ti posso dire, bella sta cosa, sia su Facebook sia sui messaggi, sulle cose, sia qui che a me i messaggi cattivi sono divertenti. A me no, mi fanno male. No, mi fanno male pure a me, però se sono dati con grande superficialità, dove non è che ti giudicano, ti criticano per darti una direzione, allora li apprezzo. Dico, dimmi che sto sbagliando secondo te, perché poi ormai adesso internet ha creato i mostri, no? Certo, i leoni da tastiera. Esatto, io non so niente, non so nessuno, clicco, mi fai schifo, così. Te sei stai male, a me fa male. Personalmente, lo dico per stimolare questi signori, a me mi fa... Se mi volete ferire... Sì, anche a me, basta una persona, Io a me mi ferite, lo dico proprio sinceramente, sì, non è lo dico per scherzare, perché io vorrei l'assoluto, capito? Il essere piace a tutti. Mi sto specchiando. Però so che è impossibile, però so che ogni volta che leggo mi rode. Esatto, ma non dico niente. Ho detto finalmente, che bello, eccetera, eccetera. No, io capisco. In psicologia, l'umorismo, caro Pino e caro Maurizio, è un meccanismo di difesa. Bello, per cui è una cosa bella. Buon pomeriggio, Pino, ciao, puoi chiedere per favore a Maurizio Battista se capiterà Terracina o Sabaudia questa prossima mi estate? Mi sembra che siamo... È come quelli che ti dicono, è come quelli che dicono: c'è uno spettacolo a Roma, guarda, a Belletri ce ne sono due. Ma cosa ha chiesto Roma? Roma? Io starò a Formia, è un po' vicino, vabbè, non è proprio lì, non è che possa andare a casa sua, insomma, manco dove abita. Esatto. Se no ci andavo, però no, ci andavo. Scusate, vista la radio, sì, esatto. Andiamo in tutta Italia, no? Questo dicevo, il fatto, una cosa che mi è successa negli anni, parliamo pure da come ti pare, morì liberi. Una cosa che mi è successa negli anni, mi è aumentata la sensibilità, cioè. Non so se qualcuno dei tuoi intelligentissimi ascoltatori. Piango con molto. E adesso che diventi padre, diventa ancora peggio. E lo chiedo proprio con un aiuto. Sto lanciando un grido. Chiedere un aiuto. Allora, al 349-238-6666, voi pure piangete. Io sono sempre stato sensibile. Questo parto da una base grossa di sensibilità. Ma adesso, negli ultimi anni, vedo una cosa così, mi scioglie la lacrima. Infatti, Alessandra mi dice. Ci sta a piangere, perché già ti tremano un po' i labbretti, hai visto? Ma sono i film che ti fanno piangere quelli, no, romani. Pure le situazioni, pure i messaggi. Anche un signore, una persona anziana che magari un bambino che ha dei problemi per la strada che incontri. So che mi fa, per lo spettacolo mi fa ben senso, mi fa essere ancora più sciolto. Certo. Perché però un po' mi pesa, dico, ammazza, l'età mia, ancora mi dovete a piangere. No, ma noi ci hanno insegnato l'uomo non piange. L'uomo no, papà, no, ci hanno insegnato a questa generazione che fai, piangi, un uomo non piange, tu da bambino ti ricordi che devi piangere, invece no. Io, la cosa io più bella del mondo è chiede scusa, ma è aumentata, e piange. Ma perché sta piangendo pure te, sto guardando me, ti creo tenerezza io. Ma dove fai bene? Faccio... Ma che roba brutta, ma, no, non ma fai prego. Voglio bene. Senti, parlavi prima di questa nuova avventura, intorno ai primi d'agosto nascerà. Il 3 agosto Anna. Come dicevo prima con voi, prima della diretta, lo dico agli ascoltatori, amici, ascoltiamo tutti amici. Ditemi sempre quanto manca la fine del blocco, che io non so, c'è Alessandro là che saluto, Gaia, 6 minuti e mezzo. E stavo dicendo, dico, se tu anni fa mi avresti detto tante cose, no? Farai questo al teatro, farai questo, avrai... Te nascerà una via a 60 anni. Io ti dicevo prima. Quanto sei simpatico, certo. Ma non, invece la vita è questa, è imprevedibile, succedono delle cose che io, nel caso mio, non mi aspettavo. Guarda, il 90% è questa avventura ecografica che mi hai raccontato prima. No, non posso raccontare adesso. Non puoi raccontare. No, non vorrei che sto ammorbassi i signori. Ma che ammorbi, questa è divertente, perché la realtà, questo è un esempio di come a te la realtà ti inonda e tu la traduci, la butti sul palcoscenico. No, perché magari il 21 luglio diventerà questo diventerà più lungo quello che racconterai. Adesso lo dico, fermami un secondo prima. Sì. Il problema è questo, che molti comici trattano che sono la politica in un certo modo. Siccome a me mi interessa, perché ho un mio pensiero, però so che vabbè, magari ma agli altri niente. Non gliene può fregare di meno, però ci interessa sapere che, come si dice, se abbiamo 100 confessionari, tutti dicono le stesse cose, siamo tutti uguali, levando qualche malato, dei malati, ma gli altri raccontano questo, io racconto questo, ho modo e maniera, punto. E nasce tutto al quotidiano, io vivo. Perché? Esatto. Perché non sto io vivo, giro, guardo, va, sembro pure un impiccione. Allora, siccome questa cosa sembra più lunga, perché la devi raccontare bene, faccio sentire un pezzo, perché visto che Mauro Meconi è il tuo grande stimatore, a parte me ovviamente e tutti le altri milioni di persone, ha scaricato a pezzettini al supermercato. un pezzettino per volta. Questo è stato fatto più volte da anima mia di cugine da campagna, fermate. No, dai, ragazzo. Pezzettino piccolo di un minuto. Vabbè, sentiamo un pezzetto. Sei autorizzato, ragazzo. Vai, questo è il pezzo storico. Ci sta? Tu qui, capito? Ci ha detto l'altra puntata, mi stai sui coglioni. O te li tagli o torni a Flamenco, dove cazzo stai? E non mi guardare così. Perché mi sbatto io. Io parlo di vita coniugale e adesso siamo al punto. Il punto era, ecco, ritorno a casa. Tu hai lavorato 8-9 ore. Fai impiegato te? No, lavorava, parlavo io, no? Che impiegato lavora? Senza offesa. Torni a casa. E non bussi alla porta, sei stanco. Graffi come gatto silvestro, fai così. E lei dall'altra parte ti risponderà così. Chi è? E tu risponderai, io. E lei, io chi? Vai a spiegare chi cazzo sei te, che sei uno normale manco da piavi. Chi è? Io chi? Dopo mezz'ora non c'è più, chi è? Sto. Considerate che è una televisione, sto 2 ore che sto là dietro, capite tutto? Lei dallo specchietto fa, sto cacchio chi? Apri la porta subito, ti aggredisce? Ah, sei te, sei. Sei stanco? E tu gli fai sì. Tu sei stanco? Cazzo, mi hai chiesto a me, mi hai chiesto. Tu sei stanco? E io? Sei stanca pure te? E che hai fatto? Oh, ma che ho fatto? Io ho fatto 2 lavatrici. E che ha costruito te lavatrici? Perché non stavo incazzato. Fa, lo vedi? Perché donne quando si arrabbiano non si rompono. Tutto dentro, tutte vocali. Lo vedi? E il lavoro mio non vale niente. E mo che vuoi? Beh, vorrei entrare. Non sono un testimone di Geova. Posso entrare a casa mia? Riesci a entrare? E lei ti fa, mo che vuoi? Dico, vorrei mangiare. Oggi? No, prenoto, venga la settimana prossima. Tanto. Ecco, questo è solo lo start-up. È un pezzo, lo dico, no? Pezzo storico. È un pezzo che adesso è molto più pulito. C'è una quindicina, questo era. Ma dove lo faccio? Guarda, qui c'è Giuseppe Cruciani. C'è Giuseppe Cruciani, sì, che fa la zanzara. No, che perché insomma, poi spinge. In certi, ecco, un'altra cosa che ho imparato piano piano è pulire sempre di più. Per arrivare. Che non è la parolaccia che fa ridere, no, l'intercalare, quella è l'intercalare. L'intenzione, ma la storia. Sì, certo. Però lo capisci sempre lavorando. Ah sì, ma per forza. Io ho visto una macchina della scuola guida con scritto dietro una cosa bellissima. Scusate, stiamo imparando. Oddio, stiamo lavorando, cioè, per voi. Cioè, questo mi sto imparando, è uguale. Piano piano, adesso la cosa è cambiata tanto. Però stavo dicendo, dicevi scusa? No, questo dicevo, che non è la parola. Tu non hai mai usato la parolaccia. No, magari alla radio i vostri ascoltatori sono abituati. No, abbiamo cose. Fatto sentire dei momenti di film duri. No, io ho scoperto, pezzi. Tu no, sei no, attore, quella. Navigatissimo. Ho scoperto, da autodidatta, che si può fare cambiando meglio. Sono cresciuto anche da solo. Sì, sì, assolutamente. Ho buttato molto più sulla gestualità. Capito? Sulle pause, sulle i pause, silenzi, che ne parliamo sempre, che, questi che è silenzi. È molto importante. È certo. È come a casa con tua moglie, certo, te sta zitta, è meglio, non devi parlare per forza, che la incattivisci. È vero. L'ha detto qui alla prima puntata il grande Albertazzi, ha detto non è tanto la voce, la recitazione, fino quando si recita, eccetera, ma sono i silenzi, le pause, sono le cose più difficili. Io dico sempre, lo dico a, parlavamo di altri comici, di altre cose, senza fare nomi, cognomi, anche li sappiamo, tra parentesi. Nel caso di prima non lo sappiamo i nomi. Purtroppo la troppa cultura, sta cosa farà a radio, aiuterà, sì, no? Ti chiamano, la troppa famiglia cultura Agnelli. Specialmente a livello comico danneggia, perché ti distanzi troppo, ti allontani bravo dalla gente, dal grosso. Vedo quei ragazzi di quella cosa che ti ho detto prima, voglio fare tutto questo umorismo molto intellettuale, che è bello saperle certe cose. Se io sapessi altre cose che io non ho studiato, se io sapessi che so il diploma, se avessi avuto il diploma, già una marcia in più. Ma lì loro invece la usano come per arma per far ridere. Cioè, e non dici, far se ridere. Io faccio ironizzo sulla critica della ragion pura di Kant, ridono in pochi. No, insomma. O ridono quei 7 che usano. Esatto. Quei 70, quei 7000, io non rido, te lo dico subito. No, infatti, guarda, non per lo invitate. Kant, io ho fatto l'errore di invitare Maurizio. Kant è una via sua Nomentana. Esatto, qual è? Dopo la terra, c'è via Kant. Lì per me quello è. Esatto, come succede pure questo. Non lo invito, io ho invitato all'Eliseo un giorno, faccio uno spettacolo serio, ogni tanto mi capita fare una cosa. Maurizio gli è piaciuto da morire. Vabbè, lo spettacolo, vabbè, signori, lo dico, siamo, lo ripeto, tra grandi amici di domenica a quest'ora, o siamo amici o stiamo a perdere tempo. Allora, dai, aere, come il prete, chiudo. Come si intitolava lo spettacolo? Edgar Allan Poe, il racconto di un uomo. Ecco, il racconto di un uomo tu devi raccontare per conto tuo. C'è cioè, una chiamata a me, c'era pure la moglie lì che strillavano tutti. Ma non strillava, lui strillava, diceva, dice... com'era? Eppure matto non sono, e certissimamente non sogno. E domani... mi fissava, io mi sono messo pure paura, di questo è matto. Basta, boh, non ti vedo più. A tra poco, no, poi suonato. È stato un brutto momento. Tra poco non pubblicità, sta fermo. Da tra poco, ciao. Voice Anatomy. Bentornati signori, Voice Anatomy, vicino a me Maurizio Battista, vi siete accorti? Sono arrivate tantissime cose a proposito. Grazie. Del tuo pianto. Se Battista piange, compa, leggo magari quelle più... Se Battista piange con poco, gli consiglio di ascoltare l'ottimo Cruciani la sera su Radio 24. Saluto entrambi. Vabbè, questo perché Cruciani, io devo, Giuseppe, se può parlare, no, liberamente di tutti. Certo, no, ma sì, io adoro Cruciani, Giuseppe. Lo trovo a tratti, sto parlando, sì, così, sì, liberamente, sì, al bar tra amici, o io no. Però certe volte lo trovo esagerato, nel senso, perché tocca a Sebastian Contagi sempre e comunque per far casino? Personaggio, poi insomma, c'ha un'idea sua importante. No, sei... ha creato un nuovo modo di far radio, bisogna se dire. Se sei la un personaggio, le prendo per quello che so le cose. Ah, ma se è un tuo pensiero, lo trovo un po' troppo forte a volte, cioè, nel senso. Non è gratuitamente posso... forte, tu dici. Bravissimo, lo trovo un po'. Certe volte una parolaccia in meno. Secondo me una cattiveria troppa gratuita per certi versi. Io parlo sempre di cattiveria perché il mondo in molti casi è pure brutto. Brutto e cattivo. Però no. E poi adesso che ti commuovi più facilmente questa creatura in arrivo, capirai. No, a me, che ne so, chiedevo un motivo, poi non mi hanno detto il motivo. No, no, aspetta. La soluzione soprattutto. Ti fanno su, Carlo, Battista e la sua camicia rossa. Io come di Central la uso tra uno spot e l'altro, ma Battista spesso mi frega, mi dimentico cosa guardavo prima della pubblicità. Tu mi devi spiegare una cosa, no? Sì. Hai visto, tu sei un artista prima di me, più completo di me, eccetera, eccetera. Come fa certi artisti a non... sentirsi vicino, legati e fraterni a delle persone così? Si dimentica da dove partono. Perché non lo ti so. Devi allontanare? Guarda, da non so come si chiamava, convinto. Da Giorgio, perché devi allontanare? Io cioè, non sto scherzando, sai, non faccio il caso. No, non c'è bisogno di reclutare la gente, già ce l'hai. Per cui. Capito? Io gli voglio bene, famo la foto dopo un'ora tutti insieme. Perché quando io vedo, per me il mio sogno era quello, un po' lo sto avverando. Il sogno è, per un comico, parla di teatro, chiamiamo leggero. Sempre più pulito, chiaramente. Leggero, però la leggerezza non è mai superficialità. Bisogna stare attenti. La leggerezza calviniana, cioè voglio utilizzare qualcosa di molto forbito. Leggerezza vuol dire vivere la vita meglio, non con leggerezza vuol dire superficialità. No. Vuol dire leggerezza, vuol dire affrontare meglio i problemi con grande ironia e con grande forza. Come dici te, calviniano, infatti io so calvo, lo faccio. Se ero ricciolo, capricciolo. Veniamo a noi, no, vedere in sala. 1000-2000 persone, tu mi capisci? Le famiglie complete, 0-100, certo. Con i figli, con la nonna, a me umanamente mi gratifica. Certo. Dico, ma porca mia, la vecchietta che mi abbraccia, dico, ma eccoci perché ci piagni. E prova a piagnici te allora. Questa è la bella televisione di una volta che io ho fatto nell'ultimo spettacolo e tu sei cortesemente venuto a vedere. Dove stavi seduto, papà, mamma, te, tuo fratello, nonno e nonno, e guardavi la televisione con un'altra con un altro occhio. Ti ho detto, no? L'inserimento del 21? No. L'inserimento del 21 di quel signore genio. Grande, storico, no, diciamolo, Silvan, di Aldo. Silvan, che abbiamo fatto. Perché io l'ho rinvitato per un che già aveva fatto con te, perché aveva fatto, perché Silvan, e non ho invitato un rapper alla moda, e sì, non ho inventato uno che a me cucina, a me, perché che portava gente. Silvan magari ci dice che non la porta persone, però vedi una qualità, vedi un'umanità, vedi quando la gente era migliore, era buona, era tutti così, hai capito? Non vai grandi ad invitare, professionisti, non vai ad invitare quello, quel rapper o quel mapper o perché, perché mi porta a no, c'è il rischio che Silvan non mi porta una persona, c'è un problema, però quando stai lì quel quarto d'ora sui maxi schermi al centrale ti viene la pelle d'oca, sì, e capisci perché tuo padre era fatto in un certo modo. Bravo, ecco perché ho preso no. Se non potevo prendere... E cosa ti ha detto Aldo quando tu l'hai chiamato per venire? Ti ha chiesto quanti soldi mi dai? Ti ha no, chiesto quanto no, devo fare? Che ti ha chiesto? Esatto, ho fatto leggere il messaggio e che ti ha chiesto? Ecco, io lo detto, so, io detto, parliamo di Silvan, sì, e Battista Maurizio, parliamo di una formica e un elefante storicamente. 62 certo, anni di carriera, una persona tutti dovreste conoscerla, ma non il mago in sé, l'illusionista in sé, proprio il motivo che l'ha portato fino ad oggi ad essere quello che è in tutto il mondo. Lui, sì, ha quel gioco dei 180 carte, unico al mondo, record mondiale, certo. persona. Tu l'hai chiamato? L'ho chiamato quell'altra volta quando è venuto da me un mese, ti giuro, alla fine lo dico, e torniamo sempre su sto pianto maledetto. Si è messo a piangere. Sì, lo so, c'ero all'ultimo. Porco Giuda. C'ero, testimone. Sai, mi ha detto, guarda, noi il 21 mi farebbe piacere se tu stai. 10 minuti con me sul palco. Gratifichi 6.000 persone, mi auguro. E lui mi ha detto, a che ora devo venire? Cioè, non ti ha chiesto, beh, mandi a macchina. No, ma che scherzi, non è. Ecco perché amo queste persone. Amo, io forse mi sto invecchiando e amo le cose come me o più vecchie di me. E le cose moderne non mi entusiasmano. Tutta questa i valori. Cosa, i valori, si scusa, persi i valori. Mio nonno c'aveva i valori, come tutti i nonni, tutte le persone. Certo. Andavo a lavorare, era un dovere, era un mio nonno, lo sentivamo, sembrava un astronauta mio nonno. A casa era considerato un astronauta e faceva il tramviere alla Steffer, guidava quello e noi lo consideravamo, cioè, ma dove è stato nonno? Alla NASA! Perché a quei tempi il tramviere era... Certo, c'era la divisa. E c'è, quello c'è il monologo bello di Aldo Fabrizi, che è il primo giorno che parte, porta la mangiare tutti a salutarlo. La divisa, il rispetto, non voglio far vecchio, anche se ce so, chi se ne frega. Però è giusto, era così, quando c'erano dei ruoli ben assegnati. Al semaforo vedevi le famiglie, vedevi la classe sociale, vedevi la bicicletta, la Vespa, la 500, e capivi. Oggi non capisci più chi è ricco, chi è povero, chi c'è i buffi, chi è protestato. Guarda queste persone, caro Maurizio, le lacrime sono un regalo del nostro fisico per ampliare l'anima. Ecco, vabbè. Capito i nostri. Hai capito tutto, hai capito. Questi tutto. Sono, lo scrivono in una maniera più bella. E non la sento. Caro Maurizio, le lacrime donano l'emozione a un indifeso, di un indifeso. Hanno deposto l'armatura ha detto una cosa pausa molto di morbidezza. Ha detto una cosa molto giusta. In quei momenti, tipo adesso, no? Giusto? Ci siamo? Sì, sì. Di commozione, io in quei momenti mi sento veramente come se fragile, mi sento nudo. Perché non è un grande spettacolo? No, siete tutte e due. Questo lo dico. Noi dalla vita in su potremmo essere, la tiriamo su, David in giù è un'altra storia. Capito? Dai. Capito? Per esempio, io che sei sul rapporto con una moglie più giovane, quante secondo te ne ho subite? Di tutte. Sei un vecchio che vuoi, ti hanno massacrato anche e se in noi famiglia, gli spieghiamo a tante motivi. Persone che i motivi si parla pure di una cosa che molti non vogliono sapere e non mettono in conto che si chiama amore. E l'amore non è un'equazione. Graffa, piatta, tonde, no, l'amore è una cosa che nessuno può, se no farebbero tutti il matrimonio del secolo, certo, il film del secolo, esatto. Il programma del secolo, non c'è un'equazione, ti innamori e non sai perché, poi il cattivo può pensare a quello che vuole, sì, che te ne importa. Lei dice ma una tua coetanea o lei un tuo coetaneo, e che ti garantisce che stai 100 anni insieme? No, te lo garantisce il sentimento. Certo. Secondo il mio è quello il minimo comune divisore, il massimo comune multiplo, il minimo comune multiplo, quello che voglio chiamare, è quello, è l'amore. Non capito più. Vabbè, un multiplo, no, c'era un multiplo, è l'equazione matematica, ecco, cioè, quello che lega però due. Quando leggo quei messaggetti, specialmente prima, sono 2 anni, sono un po' calati, vedevo qualche critichetta così, ammetti, dico la verità, te rompeva dicendo ma io sto Mario non lo conosco, ma può di quello che te pare, sì, ma te dispiace. Però il pensiero che uno mi può giudicare una brutta persona per una cosa di sentimento. Tesoro, mi dispiace. Hanno detto tutto il contrario di tutto, ma non sono loro. Non sono loro perché poi c'hai 6.000 persone qui a Roma, no, ce n'hai lo stesso 5.000 a Milano, a Treviso, sì, Trieste, sì, Reggio Calabria. Tu sei e poi abbracciato... aspettiamo di dare una bella notizia ai nostri amici che ci vogliono bene, a chi tifa per noi. Certo. E io al centrale ho fatto uno spazio, chiudo questo, poi magari non quando vuoi me ne vado. Ma quando chi, mi dici, no, c'è un altro blocco e poi te ne vai dopo, c'è bella famiglia. Ho fatto uno spazio per gli amici di Facebook, perché portano le scarpine Alessandra, ecco, dico, c'è questa gente, ragazzi, un po' di, non voglio far buonista da 4 soldi, perché forse manco ce so, manco, no, sono stinco di santo, però ti sto dicendo, quando vedi persone a te sconosciute che portano il pupazzo a ragazzina, che l'hanno pagato, le scarpette, hanno speso quei 10-20 euro, ci conosciamo così, ma in realtà siamo sconosciuti, ho detto no, stavolta lì al centrale, un'ora prima, c'è un lunch, uno spazio dove sei, per queste persone di Facebook che si incontriamo lì, ci abbracciamo fisicamente, non più virtualmente, per disse... Anche perché una volta era così, era fisica la cosa, non era virtuale. Cerchiamo adesso se non diventa, se no non va, Pino. No, no, non siamo si da nessuna parte. Però il 5 e il 3 agosto te nasce sta creatura. Tu sei Anna, e tu sei stato, intanto saluto tua moglie che sarà proprio con sto caldo, con qua, sì, panzotta, sì, con sto caldo, mamma mia che periodo. hai avuto un'erezione nel momento sbagliato, perché mai fai nascere questo periodo. Mo sto a cercare, ho dedicato tutti i giorni per cercare chi ha messo incinta, sto a fare un lavoro. Ah, devi far DNA. Due, tre nomi ce l'ho. Hai fatto come magari una volta a casa nostra che è venuto e c'era Alessia incinta e tutto quanto, dice, ma che ci chiamano tutti quanti per capire chi è il padre? Perché certo, levi la sigaretta. Esatto, il DNA, la saliva, ormai si capisce, capito? Ti ripeto, comunque no, non indago. Va bene, però l'hai fatto per la prima volta, no, ma insomma hai rifatto un'ecografia e lì ci costruirai un pezzo dello spettacolo. Però, che durerà lì. Sicuramente è un figlio mio, perché i figli miei nascono uno il 24, sì, uno il 26 luglio e questo è il 3, perciò il periodo è quello. Tu c'ha sempre in quel periodo, insomma, che sto con i piccioni. nove mesi prima del luglio, che cos'è? Megoni, ti guardo per te. Ottobre, grazie Alessandro. A tu ottobre, quando comincia a far fresco, tu cominci a energizzarti. Sto con le castagne. Io. Stai che perdi i capelli avversi perché cascano col periodo delle castagne. Però se sale qualcosa. È bello sapere che c'è tante gentaccia. Sì, sì. Tantissima. Ma la gente ce n'è di più. Sì, se parla di mafie, di cose, c'è molto di più la gente pulita. Insomma, quando ho visto questa fotografia, come sta sta ragazza? Lo dico perché mi stai. Ma allora, due secondi, perché vabbè, il pezzo che farai poi a teatro, perché tu c'è sulla quotidianità, c'è stata pulita. Ora è la favola. Io racconto e lo dedico a tutti gli amici che di domenica alle 3 stanno ascoltando sto cialtrone e sto professionista. No, vattene. No, io sarei il cialtrone. Tu sei il cialtrone. Esatto, scusa, c'ha ragione, che cretino. Madonna, mia, allora, va via il prossimo blocco, vado Megoni. A fare. Va via lui. No. Sì. Ma vado a fare. Secondo le persone, no, hai sto quando ti compri una cosa, no? Sì. Te devi comprare la macchina. Ma te mando da uno io. C'erano tutti questi posti buoni. Sì. Così, c'è un ginecologo che fa una cosa. E facciamo una, si chiama Tranquility. È una analisi che ti elimina, diciamo, la amniocentesi. Esatto. Capito? Le malattie genetiche. Si chiama Tranquility, ho fatto, si chiamava Harmony. Harmony, ecco, questi nomi così gradevoli poi nascondono. Vabbè, ma ne parliamo dopo. Va bene, insomma, si chiama Tranquility. Vabbè, analisi del sangue, ecografie e vanno a Ginevra e tirano fuori il risultato, 15.000 possibilità contro le 300. Vabbè, insomma, vabbè. Ti dicono tutte le cose generiche. Vabbè, e va bene, per la salute, oggi che stanno queste cose da fare, si fa tutto, va bene. Ma insomma, tutto il dottore, per saldare, io sono sempre sto fatto e dopo che c'ho l'ansia, mi fa, guardi, vada dalla signorina Vada. Cioè, tu Vada, mi ha detto. Vada dalla signorina Vada. Che non si chiama Vada. Se si chiama la signorina Vada ci stava, ma tu Vada. Tu Vada, o si chiama Vada, esatto, o cosa. Dico, senta, dovrei saldare la Tranquility. Ma proprio io con una Tranquility, esatto, che manco. Tranquilli, la parola stessa, no? In armonia con te. Così. Harmony. E quella mi fa, io stavo davanti al bancone, dietro c'era un signore. Sì. E non so che stava a fare, sempre la moglie. Certo. Mi dice una cifra che io non abbino alla. Cioè, tu vai a mangiare, spensi la piatta, che ne so, paghiamo tanto 150 euro. Sì. Ti arriva 500, non è il tuo il conto, è un banchetto di una comunione della bambina. Pensi te. Sì, te ne sono sbagliato. Dico, mo mi riportano pure la bomboniera alla bambina. Mi fa, signor Battista, 1060. Io ho detto, scusi, non ci aveva preso, non mi hanno portato, non è che no, io esco da casa. 1100 euro dietro devi avere. Non mi porta perché sono romanzo criminale. Questo Maro Megoni è. Megoni lo sa. Lo sa che e dico, io do la carta di credito. Sì. E mentre compila la scheda e dice, mi dice così, o senti la voce che ho, certo, non puoi pensare che sono di Roma Nord, sì, di Vigna Stelluti con sta voce. No. Non, ma tutto rispetto per Vigna Stelluti, certo, no, sono più eleganti, Appio Tuscolano, certo. Perché mi fa, dice, signor Battista, quella frase così, gli interessa sapere il sesso? Chiaro, ho fatto, signore, venga un po' un attimo, il sesso è l'ultima cosa che mi devi dire come la pensa politicamente, di che squadra è, che farà da grande, se vince Olimpiadi dei prossimi anni, esatto, per quella cifra. Mi è costata minimo dove vince, minimo deve stare sul podio di qualsiasi cosa. E poi ci stanno, e qui sto fortunato, e qui è mia madre morta giovanissima che mi sta sempre sopra e mi ha mandato due ecografie di questa, che quando le vedranno al teatro crollano perché penso che io sto inventando. E si vede una manuccia alle ossa, sì, la scheletra, la manina, che si gratta la testa a mo' di mo come gli ridosti sorca, mi padre. E l'altra, quella dopo, fa marameo con le mani, fa tipo ho parlato con mia madre, non li conto. E io, infatti, il dottore mi ha detto, guardi, non urli a casa perché la bambina sente. Io ho detto, me lo garantisce. Mi ha detto, sì, io mo' a notte, una mezz'oretta, mentre vado a letto, mi avvicino sulla pancia di mia moglie, che è molto romantico, e faccio 1060. 1060, perché la finale la faccio di Marco Monti, ti vedeva. 1060. Io se vuoi te doppio, perché con la voce più profonda gli arriva tutta la vibrazione dentro. Faccio, così muovo, faccio così. 1060. Anche non tutte insieme. Esatto, 1060. Fai pure delle comode. Il tag sta 2,5. Quanto abbiamo ancora? Un minuto, vabbè, andiamo in pubblicità, ma arrivano tantissime ancora di... Che edificazione, siete meravigliosi, quello su Luciano Annunziata non capisco niente, fino a trasmettere in stereo, invece perché Radio 24 trasmette in mono? No, no, capisco. Scusa, codesto, ma noi stiamo in mono? Siamo in mono? Ma dai! Cioè, allora, quando ci stanno altri stereo, esatto. Con me è mono. No, no, ma no, Radio 24 proprio trasmette in mono. Radio Radicale, Radio Parlamento trasmettono in stereo. Radio 24 trasmette in mono. Vabbè, scusa. Però chi è che l'ha fatto? Chi è detto questa cosa? Non lo so chi c'è dietro, quindi qualcuno di qua. No, chi ha mandato il messaggio? Ah, è un ascoltatore. Allora, se vuoi, io posso sopperire così. Sì. Dico una frase a sto microfono, poi vado subito a quello tepino e la ridico. Può essere utile. 1060, posso aiutare? Parte dice: scusa con questo SS inviatoti, ma la domenica un impiegato del telegrafo sta a lavare la macchina al nasone. Ma perché? Traduciamo nasone. Il nasone a Fontanella. A Fontanella a Roma, che c'ha il beccuccio dell'acqua pronunciata. Veramente, mia nonna, che era romana, diceva tre cose, le dico adesso. Allora, prima era la Fontanella. Fontanella con la U. Il cinema era cinematografo, sì. E la pistola Ari Ortella. E certo, questa era i nomi veri dati. Allora, noi ci sentiamo tra pochissimo ancora con Maurizio per gli ultimi 10 minuti insieme, e poi spazio alla famiglia Brancucci a telefonate e testimonianze su Disney con tanto di Gigi Proietti, con Giancarlo Maria. Beh, puntata veramente interessante. Ricca. A tra però poco, è, voi se andate, è in mono, però è mono, ma non monotono. A tra poco. Bella questa. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno per gli ultimi 10 minuti insieme a Maurizio Battista, che l'ho incastrato. Mi dispiace, lo sai. A che lo dici, Maurizio? Tanto il 21 luglio mi tocca. Per forza. Che poi mi sento sempre volentieri, perché noi ci capiamo delle cose insieme, quando io vado a vedere lui o lui viene a vedere me. Salimo sempre sul palco. Sì, sul per palco qualche motivo. E raccontiamo sempre qualche cosetta insieme. Anche se un giorno toccherà starci insieme su quel palco, Maurizio. In qualche modo. Perché te siamo gemelli. Pensa come stai. Beh, capito, secondo me io te siamo gemelli. No, gemelli opposti. Quella è la cosa, tu puoi essere Roma Sud, io Roma Nord, oppure io da Lazio, sei da Roma. Potremmo essere figli di sacchi diversi, questo potrebbe essere l'idea. Perché no? L'idea è bella. Io fine dicitore e tu invece... No? Cioè no, sto fatto, chiarimola, tu fine dicitore Sì, io... certo, e tu invece un po' più leggero, un po' più rozzo. Posso essere rozzo pure io, però se uno si alterna deve essere così. Due figli, siamo nati insieme, ma gemelli, la stessa madre, ma... Con tutte e due cose, io pieno dei capelli, tu senza capelli, siamo veramente troppo. Poi siamo umani. Questa è partita umanità. Come un complimento, ma sta butta brutta. È brutta, ma se volevi lavorare con me, ma adesso finisce. Per te lo spettacolo con Maurizio Battista finisce qui. Oddio, l'altro giorno stavo vedendo un video, stavo facendo un video a un amico, senza dire niente, e questi commenti delle persone, sì, che sono geniali. Sì, certo, cosa i veri so comici bene. Stanno veramente, veramente stanno in giro. Sì, come in curva, ci stanno dei commenti sintetici in curva che sono geniali. Poi ne dico uno di Lazio Atalanta. E questo disse, stavo vedendo sta cosa, che non gli è piaciuto, quello ha detto avanti un altro. Io invece, Lazio-Atalanta, per quelli del calcio, stavo lì, sì. Ma così, e uno ha detto, uno dell'Atalanta entra in area e cade, ma non ha toccato il difensore della Lazio, e uno ha detto una cosa, ecco perché io uso il popolo. Perché lì perché c'è è geniale, esce fuori dal letto, la gente è migliore di certe volte di chi, sa questo che ha detto, ma che te butti che manco t'hanno usato. T'hanno usato, è bellissimo. Hanno usato, facciamo, e sei cascato. Esatto. Le cose no, sono geniali. Poi, come lo no quando la Lazio fece segna all'Inter, quelle partite che non poteva vincere con lo scudetto, e segnò l'Inter 1-0 all'Olimpico, uno in curva, scritto, un cartello scritto oh no. Oh no. Accidente da solo. Oh no. Ieri è bellissima, la sintesi pazzesca. Un film. Io sono amante delle cose facili, della comicità facile, dei film degli anni 60, facili con una camera fissa. Che vero facili, poi erano difficili. Come diceva Gruff, gioco facile perché è difficile. Esatto. E ieri Mattioli ha detto, su un film, Sapore di Sale, ha detto una delle cose. con tutto il rispetto per gli altri comici di altri città. Maurizio è un altro. Maurizio è un fratello, con noi con un film che uscirà a ottobre. Fausto e Furio ha fatto il notaio. Fermo. Fausto e Furio. Fausto e Furio. Fausto e Furio. Enzo Salvi. E lui ha detto: trovano un profilattico dentro il letto dei genitori. La madre fa: ma che è qua, Arza? E lui prende il profilattico e fa: non è un pedalino questo. Ma lui si è uscito se scrive lì. È bello. È una guerra dei cervelli, muori disarmato, cazzo. Alla fine dell'ultimo del mio blog, siamo amanti delle cose semplici, della cucina semplice, delle cose semplici. Non mi fai la tradizione rinverdita col futurismo, amatriciana. No, amatriciana. A me ci mette le fragole sopra, dice, o zenzero che va di moda. Io ho visto matriciana passata nel vino rosso. E non si può. Tosta, no. Cioè, non si può buttare l'invortina. Io oggi a pranzo, prima di venire, ho fatto le fettuccine. Lo dico per chi sta a Roma, poi magari chi sta fuori, altre fettuccine. Pino, state guardando cosa. No, tu parla. Perché sento grande Maurizio. Noi nati il 29 giugno, tifosi della Magica Roma, sappiamo bene che sotto la maschera di lei c'è la madre. Un abbraccio a te, Pino, e Andrea. Andrea, auguroni, auguroni. Stavo dicendo, no? Io faccio, oggi ho fatto velocemente, ripassate le fettuccine, ripassate in padella, ripassate, bruciacchiate, ci ho messo anche le olive, quelle tarlasche, quella piccoletta, non lo so, quelle sa mimo, come si chiamano, taggiasche. Alessandro, vedi che bella fisicità subito. Alessandro, state che so, taggiasche prima d'Alessia e De Gaia, incredibile. Per mezz'ora è stato zitto, appena parlato di Magnese, Magnese è alzato, è così, adesso ragazzi, insomma, ci ho messo le olivette, no, eh? Ripassate, bruciacchiate, ti dico la verità, una specialità. Madonna, facile, è ripassato in padella. A me mi hanno fatto pagare 75 euro in un ristorante, non dico il nome, non dico dove, non a Roma. Ripassato in padella, era a Roma, stavo con mia moglie a festeggiare un qualcosa di importante. E la tipologia è il ripassato in padella dello spaghetto. E tutta mi ha buttato lì così, dico va bene, prendo quello. Mi è arrivato il sapore del parmigiano, era il sapore del parmigiano, non c'era il parmigiano. E il sapore dello spaghetto, c'era il sapore, sembrava che stava mandando a Stallone, che era un astronauta. Ah, quelle cose là. C'era l'odore del parmigiano, il sapore dello spaghetto, ma c'era non lo spaghetto nel parmigiano. Una volta a Bologna lo racconto uno spettacolo, perché racconto la mia vita, non è che è un pezzo del spettacolo. Certo. Non è il repertorio, è la mia vita è un repertorio. Con Maura siamo lì, una convention, mangi di nascosto, cioè... Sì, prima che te vedano, non fate vedere dagli altri, certo. Sorpresa, anche perché se te vedono prima vanno via. Di Madutta, non è chiaro. Io sai, noi romani abbiamo questo. Lo dico anche a quelli del nord, che amo anche follemente. Io lavoro molto al nord. Sì. I romani abbiamo questa cosa, non sappiamo stare zitti. Dovemmo dire, tra di una battuta, in dirla noi, votiamo. Questo mi porta su un piatto di quelli bianchi che vanno adesso col buco piccolo. Col buco piccolo, esatto, era così. Perché il bianco serve per fare cose con l'aceto balsamico. Mi porta, i colori. Però mi devi credere, 5 tortellini. Sì. Perché più la roba, più il ristorante costa caro e meno la roba. Esatto. E più si abbassa la voce. Io dico sempre: ristorante da 20 euro. Dice Giorgio, quanti siamo? 20-25 euro. Non si paga 70-80 e così. Sì. Tu? Sì. Che prendi? Niente. Vino? Che no, non si può più parlare. Qui, so. Mi porta sto piatto, 5 tortellini, 5/6 tortellini. Io vedevo a Maura, dico: Maura, hai visto quando parli piano? Sì. Ma 5 tortellini. Cosa dice? Ma che te frega? Siamo ospiti? Vabbè. È brutto da vedere, anche loro stessi non si conoscevano tra loro. Ed erano pochi. Non si conoscevano pochi, siamo pochi, strano, pensavamo di essere di più. A certo punto chiama il camminiere, 5 tortellini, barra 6. Chiama il camminiere, dico scusi, sempre con la risatella chiaro, sempre. Certo. Dico scusi, mi dica, te sono cascati l'altri. Cioè, ma non per me, c'è scivoli, devo pure male. Esatto. 5 tortellini, dice, ma poi il ristorante quando dalsi fai... Però come ti senti? È affamato, non ha mangiato. Leggero, sei leggero, perché grazie. La roba è poca. Sì. Capisco che è un metodo. Sì, questa nuova cucina particolare. È vero, sono tre. Rispetto, più è volgarità, perché se te ne porta di più è volgare. Capito? Se te ne porta di più è volgare. E tu non puoi essere volgare, devi mangiare 5. Ecco, io, per chiudere così. I posti dove sono imbarazzo a quel tipo di... Ma per me, per la mia. Pure io. Io sono io. Un... Quelli che ti versano l'acqua e il vino quando ti finisce, non ti danno il tempo a te di goderti. A me non mi mette l'ansia per cameriere. Sera, che... L'altra sera, è simpatico, per scherzare, stiamo giocando. Dai, lo dico ai tuoi ascoltatori. Ma sai che mi ha portato a me, con sta voce? Mi ha detto, gradisce la carta delle acque? Okay. Manca tua moglie per me, due acque c'erano frizzante e liscia. Esatto. Mi ha detto le acque, dico Ma lo porto perché ho fotografato. Venite, cioè, chiaro. Ah, l'hai fotografata questa cosa, sì. L'ho fotografata. Ma ah, perché non sono riuscito a rubarmela. Ma volevo rubarmela, ma non ce l'ho fatta. Perché poi ti guardano, quando la guardi, certo. Un'acqua veniva a 9 euro. Eh sì, perché c'è il cluster. Dice, no, dico, guardi, questa è un'acqua miracolosa, ma devi far trovare i soldi per pagare il conto, perché è 9 euro. Dice, ma è un'acqua... Dico, però io guardo tutto all'occhio dell'ignorante, certo, de, no, del popolano. De, 9 euro e tre quarti di litro, manca il litro intero, tre quarti di litro. No, insomma, è una bottiglia di vetro. Io ero abituato agli alberghi a Riccione, dove sono andato. Dove stai sempre. Ieri, che dopo mangiato, sulla bottiglia la chiudevi e c'è scrivevi il nome, la sera te la riportava. Era pensione e mezza pensione, esatto. E tu usavi il vino, sì, te lo chiudevano e te lo riportavano. Oh, è vero che stanza mi che di una tristezza è unica, è vero, però era bello per il numero della stanza. Se io ci ripenso, per chiudere con una cosa, ero felice in quegli anni e non lo sapevo. Lo so, però pensavo... te lo stai godendo e questo magari lo trasporterai sul cuore di Anna quando nascerà. A parte i 1060 euro, ma devi vederci. Io agosto voglio stare qua. Mi sa che il 5 quando nasce sto in Sicilia. Quella mi ha detto, dice, ma lei può assistere al parto? Signora, 1060, devo star lì con la telecamera 4K. Voglio il dottore. Porti Ivanzina per parto, signora. C'è la regia Scorsese, faccio una docufiction. 1060, famo tutto un campo come si dice? Campo piano sequenza finché va a scuola. Oh. Tutto pagato da voi. Da quando nasce a quando fai medie. E voglio che va pure bene. Finché e a parlarci per dottore. Finché ne escono? I quadri. I 1060. Fino a che non arrivano i 1060, ma ci arrivi. Quanto ci manca? Perché non mi avete dato il nome. Solo due minuti, va bene. Mi fa fare i saluti. Saluta allora, tutti quelli che vuoi come grazie vuoi. Grazie per questo spazio, per questo tempo, per quanto vorrò te scatole pure agli ascoltatori. No, sai, magari avranno cose più interessanti. E me le fanno. E che stanno a fare? Dice, no, ecco qui, caro Maurizio, nell'etere la stereofonia a Radio 24 è come l'odore del parmigiano nel piatto col buco. carissimo Vino, carissimo Maurizio, Susan Sarandon al Taormina Film Fest elogiato rispondendo al giornalista Marco Bonardelli, il doppiaggio italiano. Ah, grazie, questo mi fa piacere, vabbè, insomma. Certamente. Rizzoli non ammonisce i giocatori che commentano fallo su Pogba in quanto tesserato della Juventus. Non capisco perché mi hanno mandato a me questa cosa. Dopo c'è tutti i convocati, ma mandano pure dei messaggi. E domani come la vediamo? Ah, domani? La vediamo? Chiudiamo quest'ultimo minuto. Oh, Madonna. Non lo so, il fatto che manchi Candreva, lei va a Roma-Lazio, ma sulla fascia... Candreva lì non è una bella macchinetta. Sì, non so che succede, se Florenzi... il Sharawi a destra e a sinistra sulle fasce. È una partitaccia però. Sì, perché poi quel tabellone sotto c'è Inghilterra, Germania, Spagna, Italia, e sopra c'è sta Malta, Belgio, cosa. Nel senso di togliere niente, però Portogallo, Polonia. Che ne aveva mai vinto? Mai. Ma perché il Galles che sta ai quarti? Certo. Capito, mo c'è San Marino, cioè a parte alta del coso è San Marino. No. Ah, ho capito, c'è Marino, no. Dico, ma io sto Marino. No, ci stanno squadre che storicamente non hanno questa grande storia nell'Europa, certo, nel mondiale, certo. Invece la parte sotto stanno tutte quelle forti. Vabbè, domani vediamo che succede. È tanto tocca vincere pure la Spagna. Però la partita dei 6 è terribile. È brutta, è 6, sì. È come fa amore il 2 del pomeriggio, no? Vabbè, te no, fai ai 2. Tu lo fai solo ai 2. No. Però sono domande private, non si fa. Esatto, c'è ragione. Se non sozzo, questo lo va detto. C'è ragione, hai ragione. Chiudere così non è perché ai 2 dopo pranzo, ma come fa a digerire? Esatto, c'è ragione. Ma fai movimento. Fai? No, lo so. Tu sei uno zozzo, sei costretti che la faccia che l'hai fatto. Sì, beh, è capitato ai 2 il pomeriggio. Allora, ma tu perché no? Ma io ai 2 vengo qui alla radio da te. C'ha ragione, oggi. Io oggi volevo. Io ho saltato. Come si dice a Roma? Volevo fare una chiattella e mi hai fatto venire qui oggi. Una chiattella non si può sentire. Ma sai, manca un mese. Va bene, Maurizio Navito, non so come vederla. Buona estate a tutti. Grazie a Pino, Alessio, a tutti. 21 quanti. Luglio, centralino del Foro Italico, Roma. 3 agosto. L'ospedale, vabbè, che è qual è? San Pietro. Ammazza, così sta proprio. Sportivi. E il sulla padre. Cassia, all'inizio, ragazzi. E il padre esca fuori, vigliacco. Esatto, visto che lui non è stato presente al momento del concepimento, però sarà presente al momento del parto, Maurizio Battista. Vergognati. E quando nascerà la mamma guarderà prima il sedere, poi la faccia e dirà: che bello, so gemelle. Brutta. No, è bella. Signori, un abbraccio a tutti. A tra poco ancora Voice Anatomy con la famiglia Brancucci, Walt Disney, Proietti, Magalli, etc. A tra pochissimo. tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 17 su Radio 24. Oscar Giannino vi aspetta con la versione di Oscar. La versione di Oscar non, in realtà non è il punto di vista di chi vi parla, è soprattutto la serie delle storie strane, singolari, che contraddistinguono la nostra vita di cittadini di fronte a uno Stato che molto spesso ci tratta da sudditi, la storia di come vanno le cose nell'economia e nella finanza italiana, la storia delle tante parti d'Italia in cui questa crisi per anni si faticherà in realtà a farla tornare a dei livelli di reddito, prodotto, investimenti necessari davvero a restituirci a quello che eravamo nel 2008. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì alle 16.30 alle 17 su Radio 24, la versione di Oscar. Non mancate! Sanatomi. E dopo Maurizio Battista siamo qui con la Family, Brancucci's Family, che abbiamo già conosciuto in una puntata di Voice Anatomy. Sono coloro che si occupano delle musiche, le parole, le canzoni, a dirigere, a fare i testi delle canzoni dei film di Walt Disney. Brancucci, Ernesto è il capostipite. Ciao Pino, serio, ciao, ciao a tutti. Ciao carissimo. E allora, Virginia fa i testi e Lorena fa... Non ci siamo riusciti a niente, Lorena a farglielo memorizzare. Lorena invece fa la direzione. Ci prende in giro. Allora, ci presentatevi, dai. Allora, io sono Lorena e sono quella che fa i testi. Esatto, c'è anche il post-it, ma non è servito. Ma no, ma dove sei con te invece? Ciao Pino, ciao a tutti gli amici di Voice Anatomy. Grandissima, facciamo questo come proprio come spot. Esatto. Fai i testi, per cui ciao a tutti. Beh, mi pare facile come testo. Questo. E invece è lì Lorena che fa le direzioni. E dai! Vabbè, fate tutto. Mamma è l'unica che sta a casa e prepara la cena. Quando esatto, si finisce la... esatto. E allora l'altra volta abbiamo fatto il tempo a fare un piccolo excursus, anche se è stato per un'ora e passa insieme, di alcuni film della Disney. Qui c'è di tutto, ma soprattutto ci sono degli ospiti al telefono che possono essere testimonial sia del film che del grandissimo lavoro, il grandissimo successo. Il primo lo sentiamo subito, già ce l'abbiamo in diretta? Ancora no, lo sentiamo immediatamente, prepariamo la telefonata con Gigi Proietti, immagino. Benissimo, più tardi, sì. La prepariamo subito, anche perché lui insomma è grandissimo in Aladdin. E poi soprattutto è stato il primo a creare questa moda, perché all'epoca non c'erano i cosiddetti talent. Che io devo dire, quando sono talent e si chiamano Gigi Proietti e altri nomi, fa benissimo. Non va bene quando tu trovi una persona che non fa questo mestiere e ti ha delle grosse difficoltà. Lo so. Ce la mettono tutta comunque. Sì, bisogna sempre. Dire che non voglio fare tutto nel bonfascio. Con una grande umiltà e sono tutti quanti ben disposti. Ascoltano Virginia che li dirige con molta pazienza, ma anche con molta. No, diciamolo sempre, perché se no. Sono tutti, andremo avanti tutti, così un'ora e mezza. Esatto. Credo. Sono tutti veramente delle persone fantastiche. Vero. Tutti ma sono grandi professionisti. I più grandi, più famosi, da quelli un pochino meno. Ma sono veramente, quando vengono lì, sono proprio disponibili, e questo ti fa lavorare bene. Io vengo lì, sono venuto lì due volte senza note, sono tornato a casa con due o tre note nuove, per cui vuoi pensare che la cosa è diretta proprio assolutamente. Tu sei bravo, sei bravo. No, io sono, ci metto il cuore, che è diverso da essere bravi. E lì dicevo con Aladdin è naduto. Sì, io tu ci metti il cuore, ma il talento te l'ha Gigi dato mamma. Gigi D'Alessio ha fatto Il mondo è mio. Sì, questa è una delle cose... Che non si conoscono molto. No, non lo sapevano. Chi è Gigi, un caro amico? È un bellissimo duetto che hanno fatto lui e la moglie, Anna Tatangelo. Per l'uscita del DVD, nuova versione, sì, così. Sì, la versione. E hanno cantato la canzone. Il mondo è mio. Qual è la nota? Veronica. Giusto, sei un'unione fra Lorena e Virginia. È venuta Veronica. Lorinia. Qual è all'interno? Il mondo è mio. Il mondo è mio. Che nodo ho preso? Non lo so. Belle, sono note belle. Vi ricordo che Pocahontas mi hanno chiamato Poca Cantas a me, per cui. Lasciamo stare, meno male che hanno tagliato quella canzone lì. Come mi hai scritto giustamente in una bellissima dedica, prima di noi le note le prendevi solo a scuola. Io ce l'ho incorniciata sul muro. Sì, questa. Adesso ogni tanto io devo dire, come dico sempre, se la nota la prendo sbagliata all'inizio, ma la porto avanti fino alla fine. No, non è vero. No, papà, molto io bravo. Ho visto papà fare rondata flick e doppio salto mortale su una mia intonazione e ha salutato il pubblico con 9,96. Per cui, guarda, non è una cosa facile. Leggo qui. Guarda che io tutte nomi. Le prove me le sono. Sono portate tutte le prove tue. No, ci sono. Sì, sei un pazzo, sì. Cioè si possono sentire? Possiamo sentire quelle. Le mie prove? Sì. Oddio, quale del coso, del coccodrillo del principessa del Ranocchio? Di Luis. Oh, è Madonna, divertentissimo. Puoi sentire, ci sono? Ma manda un attimo, per curiosità, perché non lo sapevo sta cosa. Oh mio Dio. suonerei a modo mio. Se la musica vi stuzzica, potremmo formare un trio. E fin qui va bene. Anche Louis Armstrong era meglio di me. Tutto il mondo si stupirà, sta per arrivare il nuovo re. Piatti! Beh, è bellissimo. Questa è, bella, questa è quella vera. Scherzo, certo. Certo. Ma non tutte le cose sbagliate, perché no. Prima di arrivare a questo, amico mio. No, no, non ci hai messo molto. È stato, no, no, messo. È stato carino. Va bene Pino stanotte, però se ci metti un po' di animo dentro, la nota è sbagliata, però il resto ci penso io. Vabbè, ma è tanto importante l'interpretazione. A chi lo dici? Cioè, è un ottimo escamotage per, esatto. Per risolvere magari delle piccole lacune più sulla parte musicale. Dillo a mia moglie la sera. Però resta tanto in questa maniera. Siete riusciti a trovare il maestro? Ancora? Ancora no? Ah, c'è un orario esatto per sentire Gigi. Senti, a che state lavorando adesso, signori Brancucci? Abbiamo fatto il libro della giungla. Abbiamo fatto il libro e dopo della sentiremo giungla. Giancarlo, sì? Magalli, sì, sì, sì. Che poi lui Bianca già Neri. Non è un neofita di Disney. Fece Hercules. Magalli mi ha fatto ridere. Poi lo sentiremo quando al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio ha parlato di lui talent. Sì. E poi lo chiederemo a lui perché lui. No, le cose più belle quando vai a teatro con Magalli, qualcun altro, anche quando viene a vedere te, sono le battute sue alla fine. Più bello dello spettacolo diventa. È una cosa pazzesca. Veramente molto simpatico. Anche Neri. Marco Re, sì, che è stato bravissimo, sì. Lui ha fatto ti basta un po' che briciole. Vabbè, sì. Ma Neri, qui parliamo di talent, sì. Quelli che fanno gli attori anche veri ad alti livelli. E Giancarlo, verissimo. Pure un attimo ci mette un cuore. A parte, Giancarlo nasce come attore, come sì. Autore, poi lo conosciamo come conduttore, ma ne parleremo dopo. Poi avete chiameremo anche Monica Ward, che è già stata ospite qui, che lei è straordinaria anche lei. Mm-hmm. E bravissimo. Poi colui che ha vinto il Festival di Sanremo, che è Giovanni Caccamo. Che cantato Ritornerò da te, eccetera, eccetera. Lui non sapevo, me lo sono ricordato dopo, che è legato al film Inside Out della Pixar. Sì, film era straordinario. Era il cortometraggio che precedeva il film. E invece, nell'ultimo film, quello di Tim Burton e di Alice, ho detto soltanto due parole, cantavo poco, quasi niente. Erano molto divertenti. Sì, vabbè, non c'era la musica. Grazie. I testi sono stati molto importanti. Sì, so che, non mi hai ringraziato. Sia... Ecco, no, ringraziami in diretta, per favore, perché è stato un testo difficilissimo da scrivere. Cara Veronica, cioè, che cosa dirti in questi casi? Però potresti cantarcela dal vivo adesso. Beh, ma guarda, gente, le parole sicuramente domenica 26 giugno, sì, non mi ricordo perché era la cavalcata dei Valchiri, in versione però un po' particolare è stata. Qui ancora, vabbè, vi ringrazio di tutto quello che fa del lavoro straordinario. Disney ha abbracciato tutte le famiglie, giovani, vecchi, eccetera, eccetera. Vabbè, ma Disney è questo, santa miseria. Uno fa scusa, accompagna proprio figlio a scuola, poi a scuola, al cinema e poi piangi tu. Dice perché no, mi è andata una cosa nell'occhio, lascia stare. E voi da quant'è che fate? Ripetiamole queste cose. Quant'è? Sì, però non saltare così, andatene via. No. Vorrei sentire la tua interpretazione. No, del tempo. No, a me sono il conduttore del qui. Tempo. Devo fare un passo indietro e il passo indietro deve essere lui, la che valorizza delle Veronica, Virginia, Antonella, Lorena, che sono il gruppo musicale delle quattro, i quattro evangelisti. Le quattro più quattro di delle, no, Brancucci. Delle Brancucci. E Brancucci Sist, che belle che siete. Brancucci, così te sei a vecchiaia te la sei assicurata, hai fatto diventare bravissime, sì. Erano già brave di sicuro, di loro hanno fatto una grande grande gavetta. Eh beh sì, perché hanno studiato molto e quindi non si può toppare da questo lato, lo dico sempre. Tu puoi mettere figlia, nonna, zia, ma no, se non sono all'altezza qui con Disney, poi soprattutto no, non si scherza, non è, sì, non è che dicono, anche perché dipende dall'America, non è che dici Disney si chiama Walter Disney e è scritto in italiano. È uno che si chiama in un modo, c'è un'azienda importante e so che poi abbiamo gli occhi addosso quando si doppiano questi film, Altre non vere. Si possono anche nominare firmi. Io quando stavo doppiando l'ultima, questa cosa della Disney, dell'Alice attraverso lo specchio, non potevi neanche nominare che lo stavi doppiando né raccontare la trama, firmi dei diritti eterni. Sì, sì, è verissimo. Adesso pure per l'era glaciale posso dirlo, perché abbiamo finito di doppiare, insomma posso dire, non è Disney, ma comunque si fa sempre parte di quei pacchetti in cui c'è il segreto. Quando mi hanno chiamato il polino di Star Wars non potevo dire che era Star Wars. Ma perché adesso con l'avvento di internet rischi comunque di perdere è un peccato avere delle anticipazioni di un film se non lo puoi vedere completo, no? Non ha senso. No, quello sicuramente. Con tutto il lavoro che ci fanno dietro. Ma non è che entriamo col telefonino, stavamo doppiando Il Trono delle Spade, certo. C'era il responsabile della HBO che girava per le sale per capire se c'era il telefonino. Ma che vuol dire? Cioè, non è mai metto a riprendere Il Trono delle Spade, che già si è detto, danno in bianco e nero, non vedi manco un effetto. Io non so con chi parlo. È tutto bello buio. Ma non ci ho capito più niente. Io sono entrato a far parte di sto cast, non so chi sono. Dortmund, per carità di Dio. Trono di Spade non si capisce neanche dopo averlo visto in italiano, è proprio non lo so. Servono, sì. Non lo so, so solo una battuta bellissima, hanno messo dopo che ha segnato Eder, c'è un personaggio che dice solo Odor, Odor, Odor per 6 stagioni e ci hanno messo invece, hanno ridoppiato facendo Eder, Eder, Eder che ha segnato per l'Italia. E fu fantastico. Qual è stato il primo lavoro che hai curato per la Disney? Che hai curato, perché loro non c'erano quando tu hai curato il primo lavoro della Disney. No. Loro c'erano, ma nate proprio non erano. Non te lo ricorda Marco Brancucci? Sì, beh, io te l'ho detto anche l'altra volta. Non so perché tu ti sia messo a ridere quando ti ho detto che ho fatto 3 dei 7 nani. Ah, è vero, era bellissimo. 3 dei 7, ma l'hai doppiati? No, sì, nella parte cantata. Ciascuno aveva un piccolo solo. Ah, e allora no. Non eravamo molti a fare questo. Non l'hai portata, portata la canzone mia, no, ma la cosa no, questa qua dei 3 dei nani, no. No, chi eri dei vergogno. Nani? No, ma che vergogna, bellissimo. Che avevo doppiato, io ho cominciato con i porno, tutte convinte che vergogna, che ho cominciato con 3 dei nani. Ma dai, Brancucci. Ma all'epoca c'era il grande maestro Pietro Carapellucci, che era lui che dirigeva tutto quanto. E eravamo pochi a cantare, non eravamo molti, eravamo più o meno quelli, sai, con Nor Orlandi 4x4, sì, esatto. Gli Alessandroni, Alessandroni e via. Quindi eravamo noi. Tra l'altro una persona che mi ricordo molto volentieri proprio era Lorenzo Spadoni, che fece quello che ha fatto adesso Magalli, il grande scimmione nel libro della giungla. Che pezzo quello, difficilissimo. E lo cantò in una maniera fantastica, fu veramente bravo. Io sono qui nella giungla, che bello. Chi era? No, Corrado Caipa era Baghera. Baghera, sì. E Pino Locchi era grande James Bond e doppiava Balù invece. Balù, esatto. E da Pino Locchi potete passare a Pino Insegno. Vabbè, c'è l'amico Vabbè, c'è Marco Re che è un amico ed è bravissimo, per cui posso soffrire un minimo, non più di tanto, glielo dirò in qualche modo. Ti ha reso onore, dai, Sì, mi ha reso, non ho fatto niente, era solo una mia idea, per cui onore l'ha resa a Pino Locchi. Vabbè, non mi ha fatto arrabbiare più di tanto, tu dici. Vabbè, assolutamente. Tu riesci meglio con i coccodrilli, forse. Stai zitta tu, non ti ho chiamato Antonella. Smettila. Scusa Marco. Eccoli. E poi un'altra cosa divertente che mi ricordo era nel libro della giungla i 4 avvoltoi. Mamma i 4 avvoltoi che facevano il quartetto. Uno di questi ero io. Eri un avvoltoio, sì. 3 dei nani, bellissimo nel curriculum di papà. Ero 3 dei nani, un avvoltoio. C'è scritto nel curriculum, sì, assolutamente. Sì, parte con ero 3 dei 7 nani e uno degli nate, avvoltoi. Quando sei nato, ha fatto questo è papà. Questo è papà. Ci siamo nate e cresciute. Noi. E poi ti ha chiesto lì l'avvocatura. Chiaro, abbiamo capito i problemi che avremmo avuto, esatto. Problemi poi psicologici. Non hai fatto mai niente come piccolo testimonianza in qualche film. Questo non si può dire. Ma come non? Papà ha detto, e tu non lo puoi dire, dai. Abbiamo fatto anni e anni di cori in tutti i modi. Noi siamo sempre tutte e due. La nostra gavetta in realtà nasce da lì, la conoscenza della musica nasce proprio in sala. Abbiamo cantato con coriste e coristi di eccezione, di grandissimo calibro. Abbiamo avuto una scuola meravigliosa perché oltre a lui che dirigeva c'erano appunto il fior fior del... Perfetto. E all'epoca si studiava la musica, sì, il fior fior di cantanti, anche la seconda generazione, devo dire. Si bypassa qualcosa però, insomma, è no, ma anche è sempre meglio studiare, senza dubbio. Allora, tra pochissimo con Lorena e la nostra amica Virginia, il nostro amico Ernesto, ma con il grandissimo Gigi Proietti per parlare della sua bellissima avventura in Aladdin e anche scambiare 2 parole con il maestro. A tra pochissimo. Voice Anatomy. Voice Anatomy. Bentornati signori, Voice Anatomy, sempre con Lorena Brancucci, Virginia Brancucci, Ernesto Brancucci, responsabili in toto. Henry, ciao a tutti. Bisogna dirlo sempre perché giustamente anche il capo mi ha detto, ripeti quando ci sono i nomi, anche durante le interviste, ricorda i nomi che sono voci famose che uno riconosce, altre voci che non riconosce, certo. Giustamente le persone che si collegano in quel momento, voglio sapere con chi sta parlando Pinuccio Insegno, sono i responsabili di tutto ciò che è Disney musicale. E credo, non so, mi avvertiranno loro quando il maestro sarà in linea. C'è in linea. E allora chi meglio di lui può raccontare? È il punto di riferimento di ognuno di noi. Quelli che fanno questo mestiere non possono esimersi. A me ogni tanto mi dico, hai fatto tu l'Accademia dei Proietti? Certe volte dico sì, non l'ho fatta, ma l'ho seguito. Fa curriculum. No, lo so, non è per quello, perché io sono cresciuto nella sua ombra, a sua insaputa. Ho visto 45 volte Meglio Occhi Please, andavo alle prove di nascosto. e quando ho fatto il provino al centro sperimentale e ho portato un pezzo suo, hanno detto: ma questo è Gigi Proietti, ho clonato praticamente. Dice: sì, io sono cresciuto grande. Così. Gigi Proietti, pronto? Pronto? Eccoci. Che bello. Ciao, Gigi. Wow. Qui c'è la famiglia Brancucci al completo, insomma, c'è anche invitato a pranzo un giorno. Per cui... devo dire, con te è cominciato uno startup importantissimo per quanto riguarda Disney. Tu hai dato proprio il diapason alla nascita del testimonial di un certo livello sulle canzoni e sui personaggi della Disney con Aladdin, il grande genio della lampada. Ti assomigliava sto genio, Gigi? Tolto la lampada che non c'entra il colore, non eri neanche così tanto blu tu, Gigi, devo dire, il colorito può essere quello che è, però aspetto un po' a rispondere perché mi sento molto lontano, non so perché. Comunque stiamo a Piazza Indipendenza, Gigi, tu stai sulla Cassia più o meno, non è infatti sarà per questo, esatto. Tra poco arriva pure l'orecchio mio piano piano stai spingendo dentro al telefono che si tende parecchio. Aiutate un attimo, no, all'ascolto. Sì, ma il doppiaggio sai benissimo che io un tempo lo facevo tanto professionalmente, soprattutto doppiaggio, sì, e ai tempi pionieristici, quando fare il doppiaggio ti dava un sacco di tempo, oggi è tutto di corsa, sì. No, vero o no? Verissimo. Adesso devi consegnare, ti dicono la puntata esce venerdì, tu è lunedì e devi doppiare la puntata che andrà in onda venerdì, quando parliamo di fiction ovviamente, sì, tipo il Trono di Spade, queste cose qui. Sarebbe stato possibile che c'erano gli anelli, no? Esatto. Bisogna carica l'anello e allora intanto tu chiacchieravi. Esatto, te fumai una sigaretta. Era il tempo per conoscere le persone che stavano in sala con te, adesso stai da solo pure. Poi c'erano i temi stagionali, verso marzo, aprile, si cominciava a parlare di vacanze, che barchetta ti sei comprato, che dovai. Bei tempi. Dovai. Che poi fai? È stato il periodo in cui tutti si compravano il casolare e lo mettevano a posto in campagna. Se è l'International Record, no, era lì, o alla Nice, no, Gigi? Dicevano, mi raccomando, quando è pronto ci venite. Sì, non sì, è andato sì. Mai nessuno in campagna. I doppiatori sono nati soli, attori doppiatori sono nati soli. E poi il grande Gigi, lo sanno ormai, hanno imparato le persone, ma io ogni tanto mi riempio la bocca raccontando che Rocky 1, il vero Silvestre Stallone, senza nulla togliere a Ferruccio Amendola, ma è Gigi Proietti, sì, colui sì, che ha inventato Adriana, eccetera, e sì, era il suo modo di parlare, un po' quella che era la recitazione sporca, un esatto. Po' perché lui adesso parlava per chi l'abbia sentito in originale, ma è così, così adesso era una specie di adenoide, di voce adenoidea, un era po' raffreddato perennemente, come l'hai fatto tu, appunto, sempre raffreddato, era raffreddato, tarta ruga, cioè era Gigi Birillo, Birillo, era il limite estremo della sporcatura quasi romana. Questa accappatoio mingoffa, resta in città, cioè Gigi ha inventato Adriana, sai perché... che io facendo doppiaggio, però nello stesso tempo allora facevo anche molte tournée teatrali, allora mollavo dei personaggi molto importanti. Io il primo De Niro lo feci io, Mean sì, Streets, Mean Streets, il primo film importante di De Niro fu quello, eravamo esatto. Io e Ugo Pagliai. Ugo Pagliai, questo mi sfuggiva. O era Ugo Pagliai, il film straordinario, sì, lanciò De Niro, l'attenzione nei confronti di De Niro, poi tu l'hai rifatto su Casinò. E... sì, l'ho rifatto su Casinò, l'avevo fatto anche in un altro, non mi ricordo. Mi... sì, e poi fatto un altro film di De Niro. Ma quando serviva... sì, anche un sì. Marlon Brando sfuso una volta. Un Marlon Brando sfuso mi sfugge, G, qual era il Marlon Brando? A un prezzo unico, è stato l'unica... l'unica... era... gli hanno dato un Dustin Hoffman e per questo gli hanno dato Marlon Brando. Qual era Marlon Brando? Hoffman, io ce l'ho sì, avuto. Sì, Lenny Bruce, Lenny, quello che forse è il doppiaggio più... che mi ha più soddisfatto, Lenny. Ma anche perché è un attore, è uno standing comedy ed eri tu, nel senso... Sì. Non sì, poteva sì. Essere che doppiato da te, era impossibile seguirlo, è un monologo quel no, film. No, ma sai perché? Perché io avevo visto... quella cosa lì è una è tratta da una commedia, da un dramma teatrale che io sì. Avevo visto a New York. Pensa. E poi dopo ci fecero il film con un attore straordinario, bravissimo, non mi ricordo come si chiami, in teatro, uh-huh. E mi colpì molto, e poi quando ho visto che quando mi hanno proposto di farlo su Dustin Italia, Hoffman, insomma l'ho fatto volentieri. Chi era il direttore, ti ricordi, di Lenny? Ero sei? Io perché tu sei fatto da solo? Mi dirigevo da solo, sì, beh, ma anche Rocky mi sono fatto da solo. Ah, la questo mi sfugge. Scusami, Gigi, questo non lo sapevo. Sì, perché sai, è sempre difficile quando sei un protagonista, no, così ho assoluto. Fatto molte direzioni. Quando facevo delle cose, ho diretto qualche film, ma non molti. Ho diretto un film di Altman, che poi, grazie al quale ho fatto pure una piccola partecipazione in un film di Altman, che venne a vedere il doppiaggio. Ah, sì, un matrimonio hai fatto con Gassman. Sì, sì. E io avevo fatto la direzione di Three Women, di Tre Donne, tre che era donne. Un film stranissimo di Altman, sì. E lui che era fissato non solo col doppio, ma con tutto quello che riguarda la parte sonora del film, del suo cinema, insomma, era venuto a Venezia, è venuto a Roma per assistere a un turno di doppiaggio. Pensa, le mani mie tremavano come una roba, Altman era un uomo duro, non era un uomo durissimo Altman. Sì, ho visto un documentario, non era facile, non era un uomo facile, però hai avuto la possibilità di condividere con lui poi di grandissimi attori. Il film che hai fatto di Marlon Brando era Riflessi in un occhio d'oro. Sì, Riflessi in un occhio d'oro. Ma tu hai fatto tantissimo. Quando scoprì che Marlon Brando c'aveva quella voce lì. I never know, è così. Bravo. Cioè, io sfido chiunque, le donne, a guardarsi un tram che si chiama Desiderio, hanno a letto uno che la canottiera zozzo e ti fa you come, mancia vengo con te. Voi siete tutti molto più giovani, ma quando uscì Bulli e Pupe. Esatto, sì. Bulli e Pupe, lui era doppiato dalla più grande voce della storia del doppiaggio italiano. Era Cigoli. Sì, Emilio, certo. Allora, quando parlava... Era tutto quanto era così. Era Cigoli che parlava in questa maniera. Esatto. Poi a un certo punto cantava. Cantava con la voce sua. E allora lui diceva... cioè, che so, sono molto contento di ripetere... Sembrava 78 giri all'improvviso. Sì. Diventava Jerry Lewis all'improvviso. È vero, dico sempre quando si parla del doppiaggio. Non ho diretto, ma doppiai Casanova, ma quello sempre dopo, però la fase mia. Sì, Donald Sutherland hai fatto. Gli ultimi fuochi di Robert De Niro hai fatto. Il film è Lia Kazan. Ecco, hai capito? Esatto, bellissimo. Ma io devo tutto il fatto che poi ho potuto fare il teatro, quello che, come diceva il povero Gigi Magni, quello che c'avevo l'astrologo che capì quello che vuol dire. Cioè teatro un po' di ricerca, di sperimentazione al suo tempo. E l'ho potuto fare perché allora non è che ci fossero sovvenzioni. No. Grazie proprio al doppiaggio, perché vinsi un provino e mi aprì un po' le porte del doppiaggio e quindi lavoravo, quindi era una questione... Fatti... A parte il divertimento, io mi divertivo come un pazzo. Gigi... Ho doppiato, dimmi. Credo, una quarantina di Furia. Sì, ma dai, Furia hai fatto. Fermati. Io ho fatto Furia, ho tutto fatto. È vero, Peter Graves, Jim Newton. Il biondo. Tu biondo non si può sentire, Gigi. No, tu che doppi uno biondo non si può sentire con questa voce, come hai fatto? Hai alleggerito, sei castrato, come fa? Ehi, allora, da questa parte! Come no, ma facevi? Il bello dei Furia, il bello dei Furia la sigla. Finiva, ma ancora non c'era Furia Cavalli del West. Ah, non c'era male? Ancora no, allora che no, cos'è? No, io doppiavo da me in Cuccini, se tu sai benissimo. Sì, come no, certo. E arrivavano a vagonate... sti Furia, perché noi ancora i seriali non sapevamo cosa fosse, non so. C'era il povero Armando Bandini che doppiava il vecchio. Sì. Il ragazzino era, credo, adesso non mi ricordo se era Acerbo. Forse era Sandra Acerbo, sicuramente sì. E io doppiavo, non si è mai capito se era un zio, un nipote, il padre non era. Vabbè. Gigi, senti, con la promessa che vieni ospite una volta qui a Voice Anatomy, perché poi è una trasmissione che parla di voce in tutto e per tutto, che è anche un ascolto bellissimo, e sono orgoglioso di dire che ha vinto pure il premio miglior trasmissione radiofonica dell'anno Ennio Flaiano, siamo felicissimi. Wow, va bene, allora vai in onda il GR. Gigi, noi ti abbracciamo forte e grazie di questa bella testimonianza, che diamo la linea al GR adesso, va bene? Buona giornata, grazie Gigi, un bacio alla saggetta e a tutta la tua bella famiglia. Ciao Adriana. Il segnale orario vi è offerto da Assicom, vendi bene e incassa meglio, marketing, informazioni commerciali e recupero crediti, assicom.com. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Voice Anatomy. Bentornati signori, dopo il GR e la pubblicità ci siamo sempre con la famiglia Brancucci, Lorena, Virginia ed Ernesto Capostipite. Abbiamo salutato da poco Gigi Proietti e adesso un altro straordinario talent, straordinario attore, anche un amico, io non mi vergogno di dirlo, lo urlo forte, che è Neri Marco Re. Pronto Neri? Ehi, eccolo. Ciao Neri. Questa è la voce fra Neri e Zoff, perché la sua voce quando parla tranquillo assomiglia più a quella di Zoff che a quella di Neri. Io... poi sto caldo sicuramente più è più Zoff. È vero, più perché quando Neri si lascia è così, è lasciato. No? Ma sì, dai, che c'è da dire più di tanto. sono l'unico che posso imitare Neri Marco Re, oggi basta. Non ci sono altri. Neri, com'è stata questa bellissima avventura con la famiglia Brancucci e col Libro della Giungla? Doppiare una cosa storica così bella, importante, credo che sia stata emozionante. Ogni tanto ci troviamo con i Brancucci ed è sempre un grande piacere, perché poi c'è la serenità di lavorare bene, ci divertiamo, e poi ovviamente i prodotti che abbiamo sotto mano sono sempre molto belli, come quest'ultimo, appunto il Libro della Giungla. È stato, Pino, per me sì, una grande... E beh, storia, insomma, storia. Beh, sì, appunto, quando mi hanno chiamato, insomma, dalla Disney per dire se ero disponibile, ho detto ovviamente sì. E poi certo. Balù, che è poi il personaggio forse più così più simpaticone, più ingenuotto, insomma, sì. Che ha sempre la ricerca del miele, quindi sfrutta il piccolo Mowgli soprattutto per quello, poi vabbè, gli tira fuori anche tutto l'animo buono che ha, e quindi c'erano tutti gli ingredienti per fare un buon lavoro, e così è successo. Eccolo Brancucci, sta per dire qualcosa a qualcuno di voi? Sì, Ernesto, Virginia ha trovato delle particolarità molto belle in Neri, se vuoi dire Virginia? Sì, perché è sposato, perché... Neri, io lo conosco, cerchiamo anche anch'io. È una trasmissione seria su Radio 24, divertente, ironica, ma insomma quello no, che Virginia ha trovato in Neri ha trovato anche la moglie prima, dimmi. Perché una delle difficoltà, vero Neri, era il fatto che la rappresentazione grafica di Baloo in questo caso era molto più, era un po' più dark, un po' più noir. Sì, poi è un film, questa differenza, prima il cartone animato, insomma, questo è esattamente film. E quindi lui aveva, essendo una persona che ti basta guardarla per farti venire il buon umore, perché Neri è così, sì, sì. Ovviamente abbiamo cercato di mettere qualcosa di più di suo, perché è vero che bisogna rispettare assolutamente l'originale. Per il lavoro che fanno e via dicendo, ma dobbiamo anche rispettare i nostri veri talent quando abbiamo la possibilità e tirarli fuori. Da disegno praticamente. Ce l'abbiamo il pezzo di Neri? Sì. Sentiamo un pezzo insieme, Neri. Sì. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. Già! In fondo basta il minimo, sapessi quanto è semplice trovare quel po' che occorre per campare. Mi piace vagare, ma ovunque sarò, a casa mia mi sentirò. Ci sono lassù le api che il loro miele fa per me. Se sotto un sasso poi guarderò le formiche, ci troverò e un po' me ne mangerò. Yeah! Neri, non è come Giorgio Gabe, come fare lo spettacolo straordinario che stai portando in giro. No. Questo è un po' più complicato secondo me, sai? Ma, insomma, non lo so, dai, alla fine è un gioco. Ogni cosa ha i suoi codici, la sua parte ovviamente seria, poi uno si diverte ovviamente a fare questo mestiere, lo sai bene tu che fai altrettanto, ma poi ci sono ovviamente c'è tutta quella parte di impegno, fare bene, rispettare il lavoro di chi è venuto prima di te, e quindi poi alla fine metti insieme e viene fuori. Io posso essere un testimone oculare di quello che sta dicendo Neri, perché quando facevamo insieme il programma con la Carrà, si parla ormai di 26 anni fa che facevamo la domenica con la Carrà, che faceva 9 milioni d'ascolto, e Neri un bel giorno verso la fine della trasmissione mi disse: Pino, vorrei tanto fare doppiaggio e lasciare un po' il mondo dell'imitazione. Io stavo a appiccicare il muro e stavo a menaia, dico: Neri, ma che stai a dire? Ma sono un pazzo? No, voglio cambiare un po', voglio fare l'attore. voglio dare un po' più fondo a quello che mi piace veramente fare. E da lì cominciò con grande umiltà, che poi quello contraddistingue ormai da sempre, per questo sì, adoro vero. Neri, poi amico di un grande amico comune che è Luca Barbarossa, eccetera, eccetera. Sì. E da lì è cominciato questo percorso attraverso il mondo del cinema, sì, che poi l'ha portato a fare quello che insomma, conosciamo perfettamente. Come hai visto, non è che ho smesso, perché l'ho fatto per un sacco di tempo, ancora sì, adesso sì, diciamo proprio gli ultimi 3 anni forse ho smesso di farle, anche se in radio continuo sempre, però comunque volevo in quegli anni lì trovare altre frecce da mettere insieme a me, perché fare solo imitazione mi sembrava una limitazione e poi comunque... Lo so, però questo ti dà molta perché era un momento di grande successo con quello, per cui sì, pensare sì, ad altro in un momento in cui ti si riconosceva un'enorme possibilità di proseguimento del lavoro, insomma, tanto grande di cappello. È stato un atto molto coraggioso. Sì, no, io te volevo quasi menà, però insomma, eri più alto di me, sei sempre stato più alto di me. Non hai potuto. Ero un po' leggermente più famoso, magari facevo la voce più bassa, te potevi mettere più paura, ma insomma, no, così non è stato. Hai avuto ragione e sono contento. Va bene, Neri, ti ringraziamo di questa bellissima testimonianza. Spero di averti per radio senza che il nostro amico Barbarossa sia geloso. No, magari visto che si chiama Boys Anatomy, non puoi non essere presente. È una coppia aperta. Ah, siete una coppia di fatto, ma adesso sì, la legge sì, vi aiuta, sì, insomma. Assolutamente. Va bene, Marco Re, un saluto da parte ciao, di tutta la Concilina. Grazie. Grazie a voi e agli ascoltatori. Ciao, un bacio ciao, alla tua famiglia. Bene, allora anche la testimonianza di un altro grande. Voi potete venire tutte le domeniche ospiti. Io volevo approfittare, Pino, se mi permetti, a ricordare Dimmi. Che ha duettato insieme a Neri il piccolo Luca Tesei, che è un bimbo vero, capirai, un Masce bimbo Urso, sta buona. È, oltre ad essere sì, lo so, ma io sono, noi abbiamo un figlio di 1 anno e mezzo, per cui Luca Tesei e Sara Tesei sono nel mio cuore, non vedo di incontrarli e menaglia tutti e due. Il tuo cuore, guarda, una volta che li incontri non puoi proprio, perché no, li conosco, sono veramente conosco il papà, ci lavoro. E poi grande talento, quindi ma cresce mai sto ragazzo? Quanti anni c'ha? Ancora 9 anni? 9 anni mi sembra, sì, 9, 10, non vorrei sbagliare. Pensa quando cambierà voce, sarà la fine sto ragazzo, passerà. Parlavamo prima durante il GR del grande Tonino Accolla. Sì. E ovviamente noi dedicheremo pure una puntata più avanti alle persone che non ci sono più, magari con qualche testimone d'eccezione. Tonino ha fatto parte di un film con Eddie Murphy, mi dicevi? Esatto, io vorrei dedicare un pensiero a Tonino, perché enorme, ha certo, fatto questa cosa molto bella con noi. È molto divertente. Il film era di Eddie Murphy, che lui ha reso con la sua risata, eccetera. In questo film c'è una canzone a cui hanno partecipato i bravissimi Neri per Caso. Ah, beh. Lui insieme ai Neri per Caso hanno fatto questa canzone. E vorrei fartela sentire. Sì, ce l'hai. È veramente, veramente carina e divertente. Sentiamocela. Sì. Vai! È una cosa di gusto. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Dalle tombe tetre si alzano, fra le ombre solazzano. Ragazzi, scusatemi se vi disturbo. Volevo chiedervi se per caso sapete dov'è il mausoleo. È dove il fiume va, che io ti incontrai. Sì, ma no, mi pare che abbiano parlato di una vecchia quercia. Hanno detto così, è proprio lei. Proprio lei, non la cambierei mai, non la cambierei. Ragazzi, siete veramente fenomenali, armonie pazzesche, ma stiamo cercando mia moglie. Devo aiutare mia moglie, come... Bella la montagna, io lo so. Come bella la montagna, io lo senti, so. Ragazzi, io sto cercando di trovare una chiave, sto cercando... Ma dov'è quella chiave, dov'è? Ma dov'è, riportatela a me. La chiave che sto cercando è nel mausoleo. La chiave è nel mausoleo. La chiave in un mausoleo a San Luis. La trovi lì. Oh, grazie per non aver fatto niente, grazie. Grazie a te, caro Tonino Accolla, grazie a te davvero, sì, anche Neri per Caso, sì, straordinari, sì. Ma Tonino è lì che ci sta dicendo di andare un po' più a sync. Noi ci salutiamo per pochissimo ancora, poi continuiamo questo percorso con tanto di testimonianze live. Non so chi sarà il prossimo, se Magalli, se Monica Ward, non lo so, adesso decideremo insieme quale sarà. A tra poco, Voice Anatomy, restate con noi. Voice Anatomy. Eccoci di nuovo in diretta con noi Brancucci's Family, che ormai andrà in giro per paesi, come si dice nel gruppo. Abbiamo goduto di Gigi Proietti, di Neri, Marco Re. Stiamo cercando un altro dei testimoni che sono stati ovviamente già preavvertiti. Abbiamo anche precettato la famiglia Brancucci per le prossime 12 puntate, visto che sono 2000 i film che avete fatto, cioè, per chiamare tutti quanti, ci vogliono, poi dite perché torniamo, ci volete bene, dobbiamo finire il discorso, non riusciamo a finire una frase. Vabbè, dai, già siamo, siamo molto lusingati di questo tuo affetto. No, so, ma è un affetto corrisposto, perché insomma siete un valore, come dicevo prima, in silenzio durante la pubblicità siete un valore aggiunto non male, insomma, visto la gente che portate, sia per l'affetto, la grazie grande professionalità mille che avete avuto voi, poi qualcuno è anche un amico comune, che questo agevola ancora di più, perché certo, se poi parli con qualcuno dice Pinozzi e no, c'ho io a parlare, io dice grazie, insomma. Non è mai capitato però. No, no, ma capiterà qualche volta, può capitare, insomma, per carità, non so per quale motivo, ma potrebbe capitare. No, come ti dicevo prima, è proprio il fatto che quando vengono a cantare da noi sono tutti estremamente ben disposti, tutti molto gentili, molto carini, sì, e siamo diventati amici, per cui i rapporti con loro sono sempre stati molto belli. Sì, con è facile tutti, mantenere, con tutti quanti, perché sì, noi da parte nostra abbiamo dato il massimo dell'aiuto e loro viceversa hanno partecipato molto per fare una cosa fatta bene. Ripeto, dovrebbe essere la normalità, dovrebbe essere questa, quando uno saluta per strada l'altro mi ha risalutato. Ma cioè, stiamo un po' perdendo questa. Sì, capito, cioè, bene o male, voi portate anche in questo caso valore aggiunto e loro valore aggiunto. È un po' biunivoca, è osmotica il rapporto, per cui è bello, voi siete carini con me, io sono carino con voi, ma ognuno di noi due porta delle cose all'altro. Certo. Poi per carità, ci andiamo pure a cena insieme perché ci vogliamo bene. Certo. Però non mi fate più cantare. Beh, comunque. Vabbè, non so, diventa la Morville che è responsabile delle edizioni, ma la prenderò con lui. Questo nonostante il mio caratteraccio, perché sì, adesso con Virginia sono tutti innamorati. No, lei coglie le cose belle degli altri, capito? Non come te, che no, ma a me è sempre trattato bene te. Però adesso che ho scoperto che c'è delle figlie carine che mi possono dirigere, io sinceramente approfitterò. Abbiamo in collegamento un altro straordinario interprete, elegantissimo, veramente ha avuto un successo e ha tuttora un successo. E non poteva che essere annoverato fra i vostri talent. Lui è Giovanni Caccamo. Giovanni. Ciao, buon pomeriggio, buona domenica. Ciao, ciao Giovanni. Dove sei questa ciao domenica 26 giugno? Giovanni. Oggi sono a Milano e... Che stai a fare? Faccio finta di avere una casa. Ah, stai a casa, per cui sei tranquillo. Momento di sì, due giorni di pausa tour. Per cui 10 minuti, insomma, ce li puoi regalare tranquillamente. Assolutamente, ma a prescindere quello volentieri. Voglio... Come state? Noi stiamo bene, siamo bene, benissimo, grazie. Quasi al fresco, ogni tanto alterniamo l'aria condizionata. No, perché la voce, lo sai, con l'aria condizionata non è che... l'aiuta, non se la passa bene, no, soprattutto per noi maschietti l'aria fresca non ci fa bene fisicamente per tanti motivi, vabbè, ma questo è un altro discorso. Giovanni, dove questa sei in tournée? Poi me la spiega a voi. Tournée, sono in giro per l'Italia, tra, insomma, tocco un po' tutte le regioni, le date le trovate su giovannicaccamo.it, sulla pagina Facebook, io non me le ricordo naturalmente. C'è così, la stessa cosa prima ha fatto l'altro attore al nostro amico che ci ha raggiunto, nessuno si ricorda le date, dove sta e dove non sta. Però posso dirvi che il 26 di luglio sarò ai Fori Imperiali per un evento molto, molto importante che si chiama Music for Mercy, e saremo artisti da tutto il mondo. Ci sarà Andrea Bocelli, David Foster, i The Tenors, con un'orchestra di 140 elementi. Ma insomma, sarà una serata meravigliosa. Ma come mai non mi hanno chiamato a cantare con voi quel giorno, Giovanni? Non riesco a capire, ma mi hai detto David Foster, che è il mio grande amico. Pensavano che ti avvisassi io. Grazie Giovanni dell'ironia, questa è l'ultima volta che ci sentiamo. Per... No, ma dai! Stare con me. Giovanni, duetto con te, l'ultima volta ti fanno per te i Fori Imperiali, finiscono qui, ti dicono Giovanni. Te tirano il piano dietro, ma scherzi, stai buono. Senti, com'è stato lavorare con questi signori? Ma devo dire è stato bellissimo, anche perché io sono un sostenitore, un fan di Disney da tempi non sospetti. Quindi quando mi chiamò Malika per dirmi sai che mi hanno chiamato per fare un vulcano, mi servirebbe un partner, ma ti andrebbe di essere insomma di farlo con me, gli ho detto ma assolutamente sì. Il film era Inside Out, un film straordinario. Esatto. Film più da grandi, secondo me. E Malika è Malika Ayan, esatto, ovviamente. Sì, Malika Ayan, sì. Ayan, scusami, l'ho anche presentato domenica l'altro anno, ma io la chiamavo Malika così non sapevo com'era l'appoggiatura. Così lei si arrabbia. Lei si arrabbia molto, sì, giustamente. Sì. No, però è stata bella carina, perché neanche l'ho chiamata, mi ha voluto fare i complimenti lei a me per la voce, ha detto che bella voce. Ho detto Malika, scusa, so io il presentatore, non è, cioè, è carino quello che mi stai dicendo, ma mi mette anche un po' in imbarazzo. L'ascoltiamo un attimo la canzone dal cortometraggio Lava. legato al film della Pixar. Sentiamo un po'. Da tempo immemore c'era un vulcano che era solo al mondo e sognava compagnia. Osservava intorno a sé tutte le altre coppie e sperava che accadesse a lui. Dalla sua lava uscì un canto in cui ogni giorno lui esprimeva il suo desiderio. La cosa che io sogno di più è che qui con me ci sia anche tu. Io chiedo un amore. Non è facile, Giovanni, questa canzone. Sembra proprio la reinterpretazione di quell'artista hawaiano. Allora, era espressamente richiesto. Le scene erano più o meno queste. Aspetta, rifacciamola. Va quasi bene, con un po' più di sorriso, per favore. Capito. Okay. Attento che c'era un friccichio. Rifacciamola. C'era un rumore di stomaco, ogni tanto si dice in sala. Per tanto una scusa per farti sono rifare tutto da capo. No, però è stato bellissimo. Ma anche, sapete perché? Perché alla fine la cosa che noi invece cantanti dovremmo fare di più è stare attenti a tutti questi dettagli, perché alla fine la percezione che hai è di qualcosa di assolutamente naturale, sì, però è tutto curato nei minimi dettagli, quindi bravo. Invece noi invece siamo molto no, cioè come l'ho fatta la prima volta non la farò mai più. Buona la prima, siamo convinti tutti, è più naturale, è diventata tecnica, esatto. Siamo cominciati a fare niente. Senti Giovanni, qual è questo tuo format, Live at Home? Ritengo sia proprio un'idea grandiosa di condivisione di scambio. Com'è questo tuo format? Ne parli un attimo. Ma è nato in un momento di crisi, nel senso che 3 anni fa, prima di incontrare Caterina Caselli e dopo aver incontrato Battiato, avevo firmato con questa major, diciamo così, non diciamo il nome, che a un certo punto, dopo avermi firmato, mi tenne bloccato perché mi chiamavo Caccamo. E dicevano no, non funziona questo cognome, sai. Ma dai. E ricordo Battiato che disse: ma come, sta aprendo tutti i miei concerti, ho prodotto l'album e lo teniamo bloccato perché si chiama Caccamo, mi sembra ridicolo. Ma pensate. E quindi in quel momento di panico dissi: oh, mi invento qualcosa per suonare, che alla fine è la cosa che al di là della fama e al di là di tutto mi fa stare bene, oppure mi deprimo. E quindi ho lanciato un contest online sulla mia pagina in cui chiunque avesse un pianoforte in casa poteva candidare il proprio salotto come palcoscenico. Ma sono partito bello. Con un piccolissimo sponsor e dormivo proprio a casa della gente per ottimizzare i costi. Ma e che oggi, bella cosa. Sì. Amico mio, succede sempre così. Ho dovuto fare sotto falso nome i primi doppiaggi dei film drammatici come Mario Persichetti, perché Pino Insegno è un attore comico, non potevo doppiare Keanu Reeves su Belli e Dannati, lascia stare. Ma la storia si ripete, poi i grandi professionisti vengono a galla, ma ce l'ho soprattutto con te. Poi adesso con Caterina Caselli stai lavorando anche tu sulla radio, Radio 2, nessuno vi può giudicare. Sì, esatto. Bella sì, la radio, mia... bella, molto, Giovanni. Moltissimo, moltissimo. E allora devi venire ospite quando passi per Roma, non statene volentieri, a casa. Facciamo... Volentieri. E se no prendo io pure il pianoforte, ce l'ho a casa, ma non lo so suonare, mi interfaccio col tuo sito. Idea. Mica tanto, perché lì finisce il sito, poi ti chiudono. Senti, amico mio, ti ringraziamo tantissimo, Giovanni. Grazie a voi, vi in bocca al lupo per noi. Non siamo soli, che è il titolo del tuo secondo album e del tour che stai portando in giro. Acquistatelo e ascoltatelo. Assolutamente. Non me l'ha portato neanche uno gratis qui, Brancucci. No, io li compro i dischi. Te lo porterò io. Quello me lo firmi, quello tuo. L'altro lo compro perché io sono il più grande collezionista di colonne sonore da film. Ho 14.000 e 16.000 CD, tutti comprati, nessuno scaricato. Wow. No, sono... Allora sono onorato di essere parte della tua collezione. Fai parte della mia collezione. Ti aspetto, Giovanni. Un abbraccio, grazie, caro. In bocca al lupo. Ciao. Eccoci. Allora, quanto manca? Due minuti per... perché io so, Alessandro che mi controlla, gli autori che mi strillano, Gaia che mi avverte, io sono circondato. Pino, ma te commuovi? Questo ancora per cose di prima, fatti complimenti a tutti, sei l'unico che ancora legge gli SMS, che manco mia madre li legge più, vabbè. E sono arrabbiati che abbiamo scoperto che Radio 24 si sente mono, ma tutte le trasmissioni sono la mia, tutte, ma mono perché? Non ci abbiamo... mettiamo... Le frequenze sono mono, non abbiamo pagato lo stereo. Vabbè, chiediamo una sottoscrizione, mettiamo un numero verde. In macchina. Vabbè, è una scelta, perché può darsi, beh, nessuno sente più stereo, dici? Non va più di moda, eh? È una radio use and talk, giustamente, eh? Ah, news and talk, hai capito? Use and talk, usa e parla, invece news and talk. Allora siamo mono. Vabbè, senti, hai un dimmi minuto tu. Ancora? Sì, ce l'ho un minuto, ma ce n'hai ancora anche dopo, però dimmi, no, tutto, certo. Vogliamo citare una canzone che ci fece Phil Collins, che cantò. Ah, in italiano, quello è l'orso. In italiano, sì, la canzone del film Coda Fratell'Orso. L'ha cantata in tutte le lingue sempre lui, vero? Sì. Sì. Sì, sì, sì, è bellissimo. Voi avete conosciuto Filippo Collins? Lui è mandato... stata una grande emozione, devo dire, anche scusate, Atos, che ha mandato una lettera, non ci ha chiamato, a Lorena con una dedica, ringraziamento. Di dedica, sì, quella è una delle cose che tengo proprio nel mio reliquio. Ah, ma te l'ho mandata io, anche tu ci sei, anche tu nel reliquiario. Ma Phil Collins è arrivato prima di te, storicamente. C'è ragione, ma lui è più basso, c'è, no, pure pelato. Diceva che è stata molto molto morbida a cantare. Sì, vabbè, non entriamo questi particolari, è stata morbida con Phil Collins. Ma non me ne frega niente, sentiamo del testo. Sì, ho capito, non c'è problema. Ne parliamo dopo con mamma a casa. Sentiamo un attimo Phil Collins in italiano. È diverso l'uomo che vorrei. Niente al mondo ormai cancellerà gli errori miei. Ho cercato di cambiare, ma è stato inutile. Non è facile trovare quella via. Coda, ho fatto una cosa molto brutta. Proprio tu che credi in me. Non mi piace questa storia. Beh, potevo essere pure io che cantavo così, però tutto quanto è un po' così. Però è vero, va bene, molto morbida. Le parole sono proprio facili per uno straniero. No, credetemi, No, non è stato bello. Fa il suo effetto sapere che Phil Collins canta le tue parole. Cioè, per me è stato veramente una soddisfazione enorme. Mi è successo anche con Michael Bolton. Sì, a me mi è successo con Barbara Streisand e Barry White. Ma dai. Ti è successo anche con Sting. Con Sting, ma vabbè, Raff, Violetta. Capita con questo lavoro di scrivere per persone che poi sono effettivamente dei mostri sacri, a parte Pino Insegno. Certo. Ma tua madre e fa un bel effetto. Tuo fidanzato era d'accordo a tutta questa avventura che hai avuto. Sì, assolutamente. Michael all'epoca. Bolto con Sting. Dillo a mia moglie che Sting ci partirebbe domani. Va bene. Allora andiamo un attimo in pubblicità e poi altre testimonianze, e poi ci racconta le storie d'amore private di questa nostra amica. Segreti. A tra poco, voi sanatomi. Voice Anatomy. Bentornati signori a Voice Anatomy, sempre con me ovviamente la famiglia Brancucci, che ha tantissimo da dire. Prima di parlare con il prossimo talentuoso ospite testimonial di un altro grandissimo film, due grandissimi film della Disney, è un mio grande amico e devo dire che grazie a lui faccio questo mestiere, e lui di questo non è mai contento, dice non lo di. C'è una cosa molto importante invece a cui tenete moltissimo, parlamene. Sì, grazie Pino, approfitto un secondo per parlare tra le cose belle e divertenti di questo lavoro. Ci sono anche alcune cose serie, e questo è un progetto nel quale sono stata coinvolta, al quale sono molto affezionata, devo dire la verità, perché mi è stato chiesto da due ragazzi che, oltre ad essere talentuosissimi e bravissimi, perché sono cantanti, attori, fanno veramente di tutto, doppiatori, presentatori. Sono Umberto e Daniele Vita, due gemelli bravissimi, hanno anche un gran cuore, devo dire, e dalla loro cuore è nata l'idea di fare un progetto di solidarietà. Loro hanno scritto una canzone insieme, credo, ad una terza persona, Marco Mondì, quindi le musiche sono di tutti e tre, e mi chiesero di scrivere il testo di questa canzone, perché facendo poi il videoclip che si trova su YouTube, la canzone si chiama Un sorriso può cambiare il mondo, sono stati raccolti dei fondi e ancora li stanno raccogliendo. Più clic ci sono e più arrivano, esattamente, soldini. E sostengono, pensa, la casa famiglia per il reparto di terapia intensiva del Policlinico di Messina. Okay. In pratica i genitori che hanno i bambini lungodegenti non sanno dove andare a riposare. Questi due ragazzi hanno avuto questa idea meravigliosa di sostenere questa casa famiglia in modo da poter trovare un posto assolutamente gratuito dove poter ospitare i genitori di questi ne sappiamo bambini. Qualcosa pure al Bambino Gesù con la casa di Peter Pan esatto. tanti anni fa e dato che la Disney alla fine è questo il messaggio certo. della Disney è sempre un messaggio di sostenere l'affetto vita, la famiglia cognome. Si chiamano Vita di cognome e hanno pensato pensa che me lo chiesero con un'umiltà devo dire come quasi sorpresi del fatto che io potessi accettare io mi sono fiondata ovviamente a fare questa cosa e poi sono state coinvolte 900 persone organizzatori il comune addirittura il sindaco di Messina ha partecipato al video è stata una cosa che ha raccolto un affetto devo dire veramente incondizionato sa, quindi io ne vado orgogliosissima grande. Anzi grazie mille per avermi dato l'occasione di parlare un sorriso se, può cambiare se il mondo se possiamo aiutare è sempre alla fine siamo di questa idea e anche Magalli è di questa idea vero Eccolo. Giancarlo ciao Giancarlo ciao come state Giancarlo senti qual è stata la tua definizione di talent quando sei venuto al campionato internazionale del doppiaggio che mi ha fatto ridere tantissimo com'era questa equazione beh detta in modo pulito no dilla come ti pare se può dire qui c'è Cruciani che ci ha sdoganato a tutti guarda ma no dici che il talent è una persona che fa a modo suo un po' da dilettante un lavoro che i doppiatori fanno da professionisti quindi dici è un po' come Paris Hilton in mezzo alle mignotte vere ecco di come e mi mancava non no sentito. Vabbè io ho riso un'ora ogni volta che lo chiami su un palco io l'ho detto poco fa ha detto Giancarlo le cose più divertenti quando vai a teatro con Giancarlo viene lui a vedere te e hai battute sue alla fine sono le cose più belle dello spettacolo non c'è niente da fare Magalli lui è sempre piaciuto il doppiaggio devo dire quando hai fatto Hercules era pure orgoglioso come un bambino perché se fai parte di un film della Disney no Giancarlo? Sì, me lo feci tanto. Con molto piacere gli trovai uno sono sempre un po' offeso dalla somiglianza dei personaggi mi fanno doppiare solo gente grassa, bassa, pelata non capisco perché l'ho ma detto no, te. Ma no. Questi si fanno dare foto mie prima di assegnare sì, un ruolo esatto. Perché fanno dai, questa così. Volta Re Luigi era gigantesco Re Luigi dai ma sì. Addirittura Re Luigi era comunque uno scimmione enorme ho capito però fa parte della storia oh, il libro della giungla dai se te facevano fare il serpente era peggio e dai quella era capito gli ho dato sta voce che Christopher Walken ancora sta rosicando in America se ne è parlato di questa storia ha provato a rifare la scena del cacciatore su se stesso dopo che t'ha sentito cantare lì ma gli ha dato una voce sembrava nell'originale Christopher Walken sembrava il padrino Rauco sì lui è Rauco come tutti gli ha dato una voce un po' sfiatata perché gli voleva dare questo tono un po' da padrino perché in effetti è un re è uno un po' un dittatore io gli ho dato una voce che De Niro se la fa operare per averla come la mia adesso ce la sentiamo aspetta Magalli ce la sentiamo fammi sentire Alessandro Giancarlo Magalli Re Luigi non devi ingannarmi piccolo uomo ti spiego che ruolo hai tu mi devi svelare il modo per usare la cosa che voglio di più. Non farmi attendere, piccolo uomo. Andiamo, voglio il fiore rosso. Ambisco al potere che mi può far avere. Con te, amico, posso. Oh, ubidu. Se me lo spieghi tu, sarò come sei tu. Ogni giorno di più. Non credi tu che piaccia a me? Sapere com'è, vivere come fai tu. Per te magari è ridicolo, per me invece è magnifico. Ma se noi ci uniamo e ci aiutiamo, che coppia formeremo? Se mi offri quel potere, guarda le cose che puoi avere. Lo voglio usare, tu sai come fare. Per questo mi servi tu. Io non chiedo nulla più. Io voglio quella fiamma e nel programma entri in gioco tu. È un ehi Magalli, volevo sentirti a te. È molto più dark però la musica qua, perché il cartone era molto più leggero. Era un swing. Questa è gotica. È più dark il film rispetto al cartone, il libro della giungla, questo è il film è scuro. E infatti io pensavo di fare Luigi che gioca con le banane, cioè, poi quando l'ho visto ho preso un colpo. Un gorillone alto 20 metri, nero, cattivo, figlio di buona donna, con sto vocione da quale parte? Infatti, non puoi mollare un attimo, ti avranno aiutato leggermente facendo un pezzetto per volta, perché sennò tutta di seguito era... Sì, beh, no, la parte, la voce l'ho fatta di seguito. La canzone, se non c'era la ditta Brancucci e Brancucci, senza Ernesto e Virginia, guarda, credo che stavo ancora a fare gli ubidui. Però hanno detto che, mentre lo facevi, eri bravo. Sì. Non sono un cantante. E poi la cosa meravigliosa è che non è arrivata la base. Non è arrivata? La base, la canzone. Dai. La canzone è stata fatta sulla colonna effetti, perché non c'era la base. Quindi mamma, io cantavo sulla colonna effetti, dove... tutti i rumori sentivano. Ma perché a un certo punto scompariva proprio la musica e sì, cominciavano a sentirsi solo i rumori, ma molto forti, di sì, pentole che volavano, di cose. Quindi lui, poverino, una cosa così normale, fuori. Assolutamente, era un dramma. Ogni tanto un contrabbasso, ogni tanto un contrabbasso. E poi scimmie che spernacchiavano. Beh, ma allora complimenti tu, più già sì, sì, veramente dai, meritato, allora, è stato allora, veramente perché bravo. Siamo riusciti a fare questa cosa in un pomeriggio, io già avevo affittato un albergo lì vicino. Lì vicino che c'è, sta poi c'è il Ministero di Giustizia, c'è appello, la Corte d'Appello lì vicino, c'è il Tribunale lì vicino a loro. La per Corte cui... d'Appello penale, il Tribunale penale. Esatto. Invece, siamo le case. In un pomeriggio l'abbiamo fatto, ma devo dire, senza Ernesto e Virginia non ci sarei riuscito. Se c'era solo Lorena, insomma, non ci avresti mai fatto. A me ha detto, quando l'ho incontrato, mi ha detto: sei tu quella che mi ha fatto penare con quel testo difficilissimo. Pensa che invece Sting è stato molto dolce con lei. Anche Timothy Bolton, come si chiama? Si chiama Michael Bolton. Sting e Phil Collins sei tenerissimi con lei, lo sai Giancarlo? Invece a te è stata dura e orrenda. Perché? Con me è stata cattiva. No, non è vero, è stata dolcissima. Con Ernesto, il resto molto paziente, insomma, però l'abbiamo portata a casa. Beh, grande successo, grandi incassi. Sì, e... sì. Ma no, ma aveva ragione Giancarlo a dirlo, perché il testo è un testo molto complicato, perché c'è il problema del sync, sì, molto evidente, perché comunque il gigantopiteco si chiama, è fatto ovviamente al computer e tutto in ma primo solo, piano. Ragazzi, voi lo sapete perfettamente, loro cantano e poi mettono a sync dopo, certo, fanno il cartone animato. Esatto. Noi invece dobbiamo cantare e recitare. Esattamente. No, e lui è stato bravissimo, perché è riuscito poi a interpretarla e a renderla beccandoli tutti i sync che io avevo scritto, quindi insomma il risultato alla fine video è molto buono. Attento magari, non è mica... Ha un certo background. Non ci avrà il fisico di Sting, ma insomma, santa miseria. Stoico, veramente stoico. No, ha avuto una forza di volontà proprio. Danny DeVito, né Hercules, quella era voce volto, tu dici, lì ha sempre detto. Mi scelgono così, dice che... C'è un personaggio magro o grasso Magalli nel Trono di Spade, t'hanno fatto te nel Trono di Spade, Gianca, non sei tu, no, quello, capito? Devono chiamarti. Adesso invece mi fanno fare solo vecchi. Chi? Ma dai, anche questa è una cosa che deve finire. Il massimo, lo che già anche fare uno vecchio mi dà fastidio, essendo io un ragazzo, e il massimo l'abbiamo raggiunto nei Simpson, dove in una puntata faccio uno morto. È più che questo. Ma come uno morto nei Simpson? Giancarlo, vedila così, hai scavallato, adesso il prossimo sarà un bimbetto. Hai fatto come in giro. Questo è vero, vince l'Oscar ormai. È un vecchio che fa il barbecue e scoppia, il barbecue muore. E tutti gli altri anelli li fa dalle nuvole, fa fantasma. È il tuo coccodrillo, Magalli. Già te lo sei preparato. Questo lo ricordiamo nell'ultima interpretazione. Quando moriva per finta. Con un grande attore greco che scrisse sulla sua tomba questa epigrafe: sono morto tante volte, ma così mai. È bellissimo. Magalli, ti adoro, lo sai perfettamente. Non soltanto io. Bene, e te lo dico sempre, perché festeggiamo quest'anno 30 anni che ci conosciamo, Giancarlo, 30 anni da Pronto Chi Gioca, visto che ci sei. Mamma mia. Che bello. Come diceva quello, se ti avevo ammazzato subito ero già uscito. Esatto. Bene, la cosa più bella di queste interviste, come al solito, come ho già detto, è la battuta di Giancarlo. Va bene, Magal, grazie Gianca, un abbraccio a tutti forte. Grazie. Ciao, grazie Pino. Grazie a te Giancarlo, che persona, io adorabile. Guarda, se non era veramente per lui, noi già facciamo questo mestiere All'inizio l'Allegra Brigata, già arrivati al Sistina con Gino Bramieri, ma lui ci scelse insieme a Boncompagni per il Pronto Chi Gioca, e lui ancora era autore, non conduceva. Poi ci fu un momento difficile della Bonaccorti con un bambino eccetera che doveva avere, lui prese il posto in corsa di Enrica Bonaccorti e condusse Pronto Chi Gioca e faceva un ascolto pauroso. Dopodiché ci volle, e invece ci buttarono l'anno dopo al Secchio, nonostante grande successo. Invece Giancarlo ci riprese a tutti e quattro e ci fece dal Secchio e facemmo insieme Domani Sposi, che era proprio l'idea primaria di tutti i programmi sulle coppie eccetera, ecco, tutti i giorni su Rai 1 il pomeriggio, il preserale con Giancarlo, e lui da lì non ci fece crollare, insomma ci tenne in vita, e io lo ringrazio tantissimo. Non so la gente se vorrà fare la stessa cosa mia, però qualcuno magari no. Altro che... quando stiamo per andare adesso, benissimo, e poi abbiamo un altro blocco insieme o altri due, uno solo, ma si è volato il tempo. A tra poco, voi sanatomi. Voi sanatomi. Eccoci di ritorno per l'ultimo blocco insieme con la famiglia Brancucci, straordinari, che io ringrazio veramente loro e le persone che hanno precettato. Noi ringraziamo te. No, vabbè, ringraziamoci tutti, però è bellissimo questa avventura insieme come ultima puntata di giugno. Noi andremo avanti a luglio, ovviamente cercando degli amici intimi che la domenica possano... che non siano al mare. Che non siano al mare e che possano aiutare questa bellissima trasmissione che sta andando avanti, che ancora ringrazio. Che il fatto di aver portato a casa questo premio bellissimo, lo dico con grande orgoglio, soprattutto a nome di Alessia Navarro e Mauro Mecconi, questo miglior programma radiofonico dell'anno. Mi permetto di dire che è un meritatissimo, bello, bello. Ringrazio oltre Gaia, ringrazio Alessandro, sì. Valerio, tutta la redazione su a Milano, che saluto perché ho avuto modo di conoscerli, quelle persone che stanno al telefono, i tecnici lassù, anche se la vediamo differentemente dal punto di vista sportivo. Ho trovato pure della Roma, pure lassù quando ho girato a Milano, ho detto vabbè, passo circondato, però persone straordinarie, grandi professionisti, Radio 24, Sebastiano Barisone che è il vice direttore, eccetera eccetera, il grande Roberto, ovviamente direttore, tutti, insomma tutto il gruppone qui del Sole 24 sì. Ore, che ha voluto e ha creduto fortemente in questa trasmissione. Abbiamo al telefono un'altra testimone d'eccezione, che è Monica Ward, che ho finito di vedere poco tempo. Che cos'è? M'è crollata Monica Ward. Forse m'è crollata. C'è Monica, c'è. Pronto? Monica? Pronto. Eccola. Ciao. La ranocchietta. Eccoci. La ranocchia. Ciao Monica. Ma come la ranocchietta? Monica è una bella donna, ma è possibile? Infatti, è anche una grande ranocchietta. Ma come ranocchietta? Mai mi fanno fare tutti questi personaggi così particolari? È come Magalli. A differenza di Magalli è vero che è piccoletto, un po' cicciottello. Insomma, tu no, non sei una ranocchia, sei una bella donna. Beh, ma era una ranocchietta molto carina. Beh, sexy. Sì, sexy, era carina. Innamorata. Su Rio 2 facevi questa ranocchietta? Bellissimo. Gabi. Me la fate sentire un attimo? Certo. Fatemi sentire Monica Gabi. Ward, eccola. Eccola. Ma nascondo un segreto che ancora non sai. Ehi. Amo te. C'è chi pensa che non si può, sembra strano, lo so, io ti amo, però ma che colpa ne ho? È così. Baciarti è una vera utopia e sarebbe follia. Ti verrebbe uno shock e una bella embolia e tu poi diverresti Bordeaux. Oh, ma se potessi ti sposerei. È troppo, ok. Devo ammettere che per te ucciderei. Lo so. Sappi che sei solo per me. Wow. Ma io non lo so, wow, che cantai, ma sti livelli no, Monica. Hai visto? Vergogna. Che cosa abbiamo fatto fare Ernesto? Ma che ti ha fatto fare Ernesto? Questa, cioè, loro sono stati straordinari, vengono i brividi anche loro qui, ma è stato crescendo lirico, pop, cioè c'è tutto. Di tutto qua in mezzo, infatti, sì. C'è un po' di tutto, sì. Comicità, e infatti è stato veramente divertente. E poi insomma, poter comunque cantare anche accanto a Mario Biondi è una grande soddisfazione. Sì, beh, no? Cioè, sì, però tu hai cantato meglio. Oh, tu doppi, fai l'attrice. Canti, sinceramente, quello è il lavoro suo, l'ha fatto come lo sa fa. Ma tu, figlia mia, sei un'attrice, sei una doppiatrice, tutto, sì. Insomma, è stata fortuna a beccarti. siamo rimasti io, te e basta. Chi è che può fare così bravi? No, sto per fanno più così. No, neanche tuo fratello, manco Luca gliela può fare. No, no, no, no, no, Luca non ce la può fare. Troppo, lui c'ha la voce troppo alta. Poi no. Troppo al mio troppo segnale alta, scatenate troppo... l'inverno. Dai, su, non gliela può fare. Spero che ci stia ascoltando. Tanto devi venire ospite a settembre. Dobbiamo fare una cosa anche insieme. Anche Luca ha cantato con noi. Beh, sì, abbiamo fatto la principessa Ranocchio. Esatto. E questo esatto. Io non ho cantato. Io ho fatto Rio Rio 2. Facevo il tucano, ma non mi facciate cantare. Io come ci sto, non canto. Se non la scrivono la canzone. Perché sanno che lo doppio io. Quello è il problema. Vabbè, lasciamo stare. Non parliamo neanche. Monichetta, tanto tu sei già venuta ospite con un figlio. Devi venire con l'altro figlio. Grandi, esatto, grandi col entrambi. Piccoletto, assolutamente te lo devo portare quando vuoi, certo, lo dici e noi veniamo. Assolutamente, sta attenta che a luglio lavoriamo ancora, per cui fa finta che stai... Attenta a non fare promesse, Monica, perché c'è il Toto luglio. Già tuo fratello mi ha detto, vabbè, a settembre, Pino, come ricomincia? Perché agosto poi ovviamente andrà il meglio di, e a settembre ricominciamo, infatti Luca mi ha detto, venga a settembre, la prima puntata... di settembre sono qui con te, va bene, me l'ha promesso e succederà. Fantastico, anche questo. Allora non me la perderò. No, come fai a perderla? Tutte e due, no, famo... assolutamente. Capirai, parlerai di sapere. Te la ricordavi così bella questa canzone? Sì, mi sono divertita tantissimo. È anche la cosa di mettersi in discussione, perché Marco Guadagno giustamente sì, conosce, sa le mie potenzialità, però non sapeva che potessi arrivare a fare un pezzo. No, ma neanche io che te conosco. Hai fatto un capolavoro, veramente hai fatto. Grazie, brava, Ernesto, anche grazie a te che mi hai seguito con grande slancio e grande stima, veramente. Oh, grazie, mi sono divertita molto tantissimo, tanto. Dimmela con la voce dei Simpson, dimmela con quella voce, salutami. Ecco, appunto, allora guarda Pino, io sono felicissima di mi avete chiamato in questo momento, mi trovo al mare così, insomma, tanto sono gialla per cui non mi brucio, e vi auguro così un buon proseguimento, divertitevi, e grazie ancora di avermi chiamato. Ti voglio bene, un bacio Monica. Anch'io, un bacio a tutti. Ciao Monica. Ciao, ciao. Ciao. È carina che sono gialla. È vero. Sì. Vedi, questo è l'esempio. Lei del... non, veramente non invecchia mai. Monica, ogni giorno che passa dico, ma quanti anni c'hai? Uguale a quando la conosco. La conosco. Ma sì, è vero, sì, ma cosa... è giovane. È giovanissima. Giovane, bella donna. Io dico sempre bella ragazza, perché bella donna. No, ma una cosa sembra, che sembra... al di là della professionalità, è pazzesco. Di quanto può essere brava, lei ha un altro talento. Lei è una grandissima mamma, e questa è una cosa che non è facile, perché è nonostante lei sia così impegnata, ha tirato su due figli meravigliosi. Sì, sì, no, li ho visti, conosciuti, bravi, qui ospite, dolci. Se lei è ospite, a quel punto il figlio ha preso in mano la situazione. Ma loro sono poi molto carismatici entrambi. Che hanno preso tuo zio e fatta Luca, sì, parlo di hanno Luca. Proprio, hanno proprio il sangue. Eh sì, il sangue world, forte, il sangue world. Sì, sono rimasti tre minuti insieme, non so, vogliamo parlare delle vacanze, dove andate in vacanza? Voi fermate un attimo, cioè avete già un altro film della Disney? In fondo al mare andiamo. In fondo al mare, già, ma poi in fondo al mare ne abbiamo parlato prima, papà l'ha fatta quella rima e garpa. La carpa che suona l'arpa. La carpa che suona l'arpa. La carpa sta ma la carpa sta nel fiume. Non è vero, guarda, il mare è pieno di carpe. Ma il luccio? La carpetta c'era finita. Ma no, il luccio sono dettagli, Pino, ma c'è dettagli. Quel pezzo, si no? Chiama licenza poetica. Ma non è licenza, ma licenza arrestano papà. Apposta state vicino a corte si d'appello. Si trova una rima con arpa, se ci riesce. Metti la carpa che non sta nel mare, esatto. Ma Disney gli ha detto che tu ti sei venduto che la carpa è un pesce italiano che sta nel Mediterraneo. Volevo mettere Branzino che suona il violino, ma quello c'aveva un'arpa. È Branzino che suona il violino. Ma manco Aldo Fabrizi fa queste rime caserecce così. Ma... meraviglioso. Meno male che adesso chi le fai? Le fai tu? No. Sì, adesso è passato a me il testimone. Meno male, chissà che ci metterà in mezzo al mare. Te. Va bene così. E allora, signori, io. Però se la vuoi sentire, c'è. L'abbiamo. Quello in fondo al mare? Sì, perché c'è. Però è la fine quel pezzo lì. Perché ho paura che non sì. Facciamo in tempo a sentirle. Se dobbiamo. Guarda un po', Alessandro, se ci arriva, se la puoi mettere alla fine, sentiamo l'arpa che suona. La... No, non c'è, No, non facciamo. Ma tanto tornate. Perché qui ci sta un sacco di roba. Non ho capito che c'è l'abbonamento. Cioè, per esempio, parlare di Cristian De Sica, che ho sentito e visto in questi giorni, sarebbe delizioso. A parte lo vorremmo avere qui ospite, sicuramente, ma approfitteremo anche di quello. Poi c'è il personaggio di Sebastian, bellissimo, della Sirenetta, che era Ronnie Grant, che io feci il provino, ho detto prima, durante il GR, e ovviamente non lo vinsi perché serviva proprio una voce di uno tropicano, proprio di uno lui dei tropici. Parlava come Fernandez. Sì, è già Megane. Sì, capito. E Simona Patitucci, che è stata bravissima a fare Ariel, la canzone di Ariel. Sì, Simona. Sì. Cristian De Sica, diciamo, canta il film Ortone. Ha cantato Tonino Accolla ancora. Gigi D'Alessio, vorrei sentirlo quel pezzo, perché lui lo chiameremo. Pino Insegno, questo è un altro che chiameremo. Questo è un grande, questo è un grande veramente. Ma perché, scusate, Michael Bolton non è potuto venire? C'aveva da fare. Meglio. Va bene, Luca Vellè, siamo tantissime. Gio Di Tonno, sì. Chick Little c'era pure, perché poi Chick Little lo doppiava l'amico Cirilli. Gio Di Tonno non ha mai cantato così bene come in questa canzone. Beh, ma Gio è bravissimo. Era felicissimo. Ne abbiamo avuti di talent. Noemi, Luca Bizzarri, Noemi, Paolo Arisa, Chissoglu, che hanno cantato nel film Trilli. Vabbè, insomma, tantissime cose. Ha voglia ancora. Dovete tornare. E dopo a settembre. Prima la cena a casa vostra o prima la puntata così di Voice Anatomy? E vediamo. Ci sta incastrando per luglio? No, eh? No. Ok. Tutte a posto. Tutte e due. Allora, niente, abbiamo terminato. Io devo... Dimmi tutto un attimo, c'è Alessia Navarro che interviene. Perché aveva dei problemi con il telefono. Va bene. Cioè, dovevamo chiamare anche Tosca, ma problemi col telefono, di collegamento, anche Tosca è una carissima amica, per cui è reale. Dimmi tutto. Devo cambiare questa cuffia perché è piena di capelli di Maurizio Battista. È vero. Mazza papà, che far comico. Cioè, non si può sentire. Potremmo chiudere una puntata di 3 ore con papà che fa cantami una canzone, uno dei tre nani. Ma santa miseria, mi chiudi con una battuta. C'è una canzone bella, Le Notti d'Oriente. C'hanno, sì, certo, ma lasciamo stare. Ci hanno tolto il premio. Meno male che il premio ci hanno dato prima. Va bene, a prossima settimana. La prima settimana di luglio, sempre insieme a Pino Insegno, Radio 24, Voice Anatomy. Grazie Brancucci Femi, grazie a tutti quelli che sono intervenuti. Ciao, grazie. Ciao.